Propongo che ci siano anche dei bordelli, come vengono chiamati, per le donne. Perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ho detto mille volte che non voglio nessuno! Che non voglio nessuno in studio mentre lavoro! Ciao Cruciani, allora, a parte che io non fumavo le canne da 2 anni e per sentire voi due oggi ho ricominciato. Niente, volevo dire che se vi sembra normale che io mi sono dovuto fare l'amante perché la mia ragazza a tutti i costi che si doveva depilare, a tutti i costi. Prima andavo a puttane perché avevo un lavoro che guadagnavo di più, adesso non guadagno un cazzo e quindi c'è una mia amica che è un po' cicciona, però c'ha il pelo e a me mi arrapa il pelo. Mia moglie mi ha chiesto chi sono Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo. Semplice, io ho detto io. Sono i due stronzi di Radio 24. Questa è Radio 24, vero? Sei tu il frocio, Cruciani, sei tu il frocio. Tu e quel nano malefico di Parenzo. Quel nano malefico. Quel nano malefico. Perché adesso non ho più paura dei nani. Un tempo non li potevo vedere. Mi facevano tanta paura. Nuovo volantino alla Lidl, Parenzo. Nuovo volantino alla Lidl. XXL, più quantità, stesso prezzo. Trappola per zingari, 19,99. C'è anche la foto della signora zingara, signora Rom, rinchiusa là. Mi ha fatto sta porcheria. Urlante. Sul web, caro Parenzo, sul famoso web. Lo fa schifo. La Raggi è stata dimessa. Poche ore prima Marione Adinolf scriveva: auguri di pronta guarigione a Virginia Raggi. Mi pongo la domanda che porrebbero negli States, negli Stati Uniti. Una che ha violente crisi di pianto, raccontate da molti, che platealmente non regge la tensione, che ha improvvisi malori sotto stress, ha il fisico per svolgere il delicato e faticosissimo lavoro di sindaco di Roma? Una paura bestiale durante la notte. Non riuscivo a dormire, non riuscivo a prendere sonno. Inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani. Allora ragazzi, l'aggiornamento sulla questione Lidl è molto semplice. I due operai della Lidl, operai della Lidl, Parenzo, operai, impiegati, operai della Lidl. Parla più forte perché sei in collegamento da Parigi e stasera non si sente un cazzo. Ma che c'entra che siano operai? Ecco, bene, bravo, i due operai della Lidl, i due impiegati della Lidl. Ma perché questa volta qualifichi che cosa fanno? Non ti preoccupare, i due operai della Lidl sono stati... No, ma tu di apertamente che sei d'accordo con quello che hanno fatto. Allora, io dico apertamente questo. Così ti becchi anche tu una bella accusa di razzismo. No, basta, no, finalmente. Ragazzi, allora la questione è molto semplice. Allora, devi avere il coraggio di dire, no. Hanno fatto bene a richiudere la gabbia. No. Allora, fermi tutti. Le due Rom dentro questo, dentro la gabbia, messe dentro la gabbia, erano già conosciute per altri furti. Ma già, c'è? Aspetta, io ti faccio un attimo, ti dico un attimo le notizie. Ma non c'è da far l'avvocato erano difensore. Già, aspetta, erano già. Hanno già Salvini. Ma lascia bere, a me ne frega niente di Salvini. Già denunciate, erano state già denunciate. C'è poi una tecnica particolare che utilizzano, che ci hanno spiegato bene oggi. Tu sei stato in volo per Parigi, non sai una mazza. Ma chi ti ha la spiegato? Famosa tecnica dello spostamento delle merci della Lidl. Cioè, che cosa succede dentro i magazzini della Lidl? Che queste signore Rom, signori Rom, vanno là dentro, e siccome ci sono le telecamere non possono rubare direttamente dentro la Lidl, spostano il materiale. I tedeschi della Lidl hanno una politica particolare, così sembra, così ci hanno raccontato, che se trovano qualcosa fuori posto, e per loro quella roba è già fallata e per precauzione, tanto la roba costa pochissimo, la mettono già nel reparto scarti. Ma allora, sei un bravo avvocato della difesa. No, bravo. Ma cosa fanno le signore rom? Prendono questa roba qui, la spostano e così poi la vanno a rubare nella zona scarti. Questa è la tecnica. Allora, quella cosa agghiacciante è che non solo l'hanno chiusa, le hanno chiuse dentro, ma in più hanno ripreso la scena sghignazzando. Sentiamo però, risentiamo. Hanno ripreso la scena sghignazzando. Allora, questo ragazzi, la cosa fondamentale è questa. Poi difendili pure. Molte persone sono pronte a boicottare la Lidl se questa roba andrà avanti. Fa schifo perché c'è una parte di paese che comunque è razzista. Ma ti pare normale? Ti pare normale che queste due signore, che pare siano ladre, non debbano subire nulla mentre quei due potrebbero finire sotto processo per sequestro di persona? Ti pare normale? Allora, ti pare normale? Vabbè. È giusto riprenderle e metterle in gabbia. Ma quello è un altro discorso. Mica è un reato. Sarà una cosa di cattivo gusto. Nella quale viviamo ormai, tu sei perfettamente dentro il cattivo gusto. Non si può accusare il cattivo gusto. Non si può mettere sotto processo il cattivo gusto. È violenza, non è cattivo gusto. Comunque, risentiamo quello che è successo ieri. È violenza. Ma che violenza, violenza. Dai, su quelle due ladre messe. Due ladre che sono state chiuse dentro, due ladre, perché guarda, quando ormai c'è un livello tale di barbarie per cui io capisco che tu ti diverta, ti piace, ridi. Vabbè, della allora non sono ladre, non sono ladre. Vabbè, d'accordo, non sono ladre, hai deciso che non sono ladre, va bene. Sono perché ladre, ma non le rinchiudi dentro una gabbia e le riprendi. Ma lascia perdere, ma la riprende. Ma come lascia perdere? Il fatto è questo. Ma vedi, ormai tu sei talmente dentro questa roba che ti diverti e ti piace e sei compiaciuto del gesto di questo. Ma no, questo compiaciuto no, mi sono messo però a ridere. Vedrai che rispetto a chi telefona, tu sarai in sicura sintonia. Sicuramente io sarei il buonista, ma figuriamoci, è così. Cioè ormai non c'è più il rispetto del diritto delle persone. Vai, se uno è un ladro deve morire ormai. Ricominciamo con ieri, ricominciamo. Le vedi? Non si può entrare nell'angolo rotture. Non si può entrare nell'angolo rotture della Lidl. Non si può entrare nell'angolo rotto della Lidl. Allora, i due signori, i due dipendenti della Lidl che sono stato. Vedrai che Salvini candiderà i due nella lista sovranità, noi per Salvini, vedrai. Allora, ragazzi, i due un nuovo caso torpora, i due signori che hanno riso i e ripreso. Signori, vedrai che Salvini li candiderà, poi glielo chiedo. Sentiremo. Li candiderà nella lista, vedrai. Sentiremo. Allora, i due si chiamano uno. Si può dire, no? Possiamo dire i nomi di questi due, sì, non violiamo nessun segreto. Possiamo dire il nome della persona messa in gabbia e non possiamo dire il nome dei due criminali. Criminali. Criminali allora, perché li hanno sbeffeggiato e ripreso col telefonino il loro crimine. Allora, i due si chiamano, uno si chiama, no, perché li stiamo cercando per capire se vogliono parlare, perché devono parlare devono e spiegare. Devono urlare, come la Rom. Beh, questo potrebbe essere una cosa divertente. Devono urlare. Allora, si chiamano Andrea Giovannelli from Follonica, l'altro si chiama Ramon Zurita, chiare origini South Americans. Allora, Ramon Zurita, Andrea Giovannelli, prego chiamare qui la Zanzara o parenti, amici, soci, eccetera, eccetera. Andrea Giovannelli, Ramon Zurita, questo nome dei due. Oppure chiamate la sede della Lega locale di Grosseto che per iscriversi, dici, per iscriversi. Allora, uno dei due, qui c'è un piccolo giallo, uno dei due, Andrea Giovannelli, ha postato sul suo profilo Facebook il giorno 28 di gennaio, cioè circa un mese fa, un video in cui viene inquadrata la stessa ROM che poi è stata chiusa dentro quella specie di gabbia, che non è una gabbia, chiaramente è il posto dove ci sono le merci tarate, diciamo, no? Che in realtà poi devono essere distribuite non ai ROM che le vanno a prendere, ma vanno distribuite, che ne so, in beneficenza, ai poveri, non so a chi. Questo signore Giovanelli ha postato un video in cui sembra scherzare con la stessa ROM, cioè il compleanno di qualcuno, credo, forse dello stesso Giovanelli o di qualcuno. Questa ROM davanti alla Lidl, di cui era evidentemente una frequentatrice. Dunque, giallo nel giallo, potrebbe essere pure tutto uno scherzo? Cioè, potrebbe essere pure tutta una presa in giro? Non lo so. Vai, auguri, auguri. Auguri. A voi la Luca, la tua famiglia. Vabbè, vedremo. Il sindaco di Follonica, Benini, dice che due gattini avrebbero avuto più solidarietà. Cioè, il problema, secondo il sindaco, è che sono Rom e dunque si è scatenata la cagnara contro i Rom. Benini, sentiamo, centrosinistra. Le dirò di più, secondo me se ci fossero stati rinchiusi due animali, credo che anche la reazione sarebbe stata ancora diversa. Lei dice Benini, ci mettono dentro due gattini e se questi due gattini siamo si disperano probabilmente i due gattini avrebbero avuto solidarietà. Beh, ci può stare come ragionamento. Più pietà, sì. Salvini, gli addetti alla Lidl. Vabbè, insomma, sentiamo Salvini. Dai, Salvini che addirittura offre assistenza legale, caro Parenzo. Assistenza legale. Non mi stupisce, non assistenza legale ai due dipendenti della Lidl. Sarebbe una follia se venissero accusati. Mi avrebbe stupito il contrario, diciamo. Vai, vai con Salvini, vai. Le hanno chiuse dentro, le hanno riprese. Adesso sono indagati per sequestro di persona. Cioè, vi rendete conto? Se tu sorprendi qualcuno che fruga in una proprietà privata e lo chiudi dentro, riprendendolo, sei tu il sequestratore, non sono loro i ladri. Siamo al terzo mondo. Tanta paura, una paura bestiale durante la notte. Buonasera e buona coda a chi è in macchina come me. La Zanzara. Cruciani, ma come cazzo fai a dire che la Rom non c'è niente di male? Ma che cazzo ti detta le parole? Lucifero. Mamma mia, che schifo, bestie, miserabile. Ma che spettacolo è la Rom che urla chiusa in una gabbia, i dipendenti del Lidl che ridono e Parenzo che si incazza. Ma che goduria è, sto godendo, cazzo, sto godendo. Allora andiamo subito, David, andiamo diretti, apriamo. Dai, c'era gente che rideva quando nel 38 i miei nonni sono scappati dall'Italia. È un paragone assurdo, dai, no, stai facendo. È un paragone che fa veramente offendere la tua intelligenza, questo paragone, no, veramente. Io ti dico una cosa, mia nonna è stata deportata in campo di concentramento. Ma cosa c'entra? È uscita salva. C'era gente come te indifferente, no, come altri che ridevano. No, non dire cazzate, dai, scusa. E altri pochi si indignavano. Non dire cazzate, stai parlando. Io questa cosa qui l'ho sentita perché sono della generazione che ancora ha avuto la testimonianza dei nonni che sono stati in campo di concentramento. Ma non è la stessa cosa. E mio nonno si ricordava che quando da avvocato, poi a un certo punto dall'oggi al domani non ha potuto più farlo. Vabbè, adesso che c'entra? Che rideva. Ma cosa gente c'entra? Non diceva ma nulla. Non c'entra nulla, nulla, ma non c'entra niente, niente. Sono casi. Allora, se non si ha più la capacità di indignarsi perché una persona, seppur criminale, cosa che mio nonno non era perché appunto, non era un ladro, ma hai già detto tutto con questo. Hai già detto tutto. No. Ma nessuno per è stato del nostro, se la nostra civiltà è arrivata al punto che addirittura ridiamo e diciamo che hanno fatto bene a rinchiudere in una gabbia e a riprenderli. Se questo è il livello di civiltà, aiuto, dove siamo finiti? Dai, su, dai. Ridete. Maurizio, provincia di Bergamo, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi, ascolta, dimmi. Quando ho visto il video ho goduto tantissimo, proprio bellissimo. Io se fossi i due ragazzi lì, sai qual è stata la solo la unica loro l'unico sbaglio? Qual è stato? No, non dovevano condividere il video, dovevo tenerselo per loro, farlo vedere le loro. Cioè tu dici hanno fatto quel video là e dovevano tenerselo, non dovevano metterlo a disposizione di tutti. Esatto, perché sarebbero andati incontro a un sacco di casini, come alla fine è successo. Sì, come quelli che denunciavano i nascondigli gli ebrei. Ma, dai, ma stai facendo veramente dei paragoni assurdi, dai. Su, stai facendo, no, è così. Stai facendo dei paragoni veramente senza... A me veramente fa venire la pelle d'oca sentire. Maurizio, tu con i rom... I rom sono... Io li considero topi. Sono dei topi, perché vivono nell'immondizia, sono sporchi, puzzano, rubano. Mamma mia... Dovremmo termovalorizzarli tutti, creare calore per uso domestico. Ecco qua. Scusami, ecco qua. Però scusa Maurizio. Poi ditemi che esagero, eh. No, ma questa è una cosa un po' diversa, David, scusami. No, questo è il clima che c'è nel Ma che clima? Ma quale clima? Allora Maurizio, e scusami. Tu li giustifichi? Non sto giustificando. Chi sta giustificando? Tu dici, io capisco chi? Questa reazione. A me fa schifo. No, non ti sto dicendo che io capisco Maurizio. Io spero sentendo sta chiamata, perché non lo posso fare solo io. Ma lo denunci almeno. Scusami Maurizio, che significa dire? Sono come topi? Spiegami. Allora io faccio il camionista e li vedo in giro da tutte le parti, vivono in quelle capanne, in parte le autostrade, in mezzo ai mondi. Non lo so come fanno a vivere in quelle condizioni. E dunque, secondo te, sono come topi da termovalorizzare? Esatto, esatto, sì. Cioè, termovalorizzare cosa vuol dire? No, ma io sono curioso della tranquillità con cui lo dici. Radunarli nelle gabbie come nel video, infatti, quando le due tipe lì nella gabbia, è lì il loro posto. Prenderli, radunarli, poi ingabbiarli tutti e poi a gruppi metterli dentro nel forno e creare il calore. Però lo faceva zio Adolfo questo qua, eh? Lo so. Beh, purtroppo non ha finito il lavoro. Ha finito il lavoro. Parenzo, mi auguro che il numero di questo ci sia. Ma no, ma scusami Maurizio, però adesso veramente tu pensi che sia l'unica soluzione possibile questa qua? Ma un'unica soluzione, no, potremmo fare. Vi diamo una settimana di tempo per lasciare il nostro territorio nazionale. Chi rimane, ragazzi. Alcuni sono italiani, diversi sono italiani, diverse migliaia sono... Non te ne frega niente, tu dici. No. In quanto rom, vanno deportati. Italiani, che ci sono un sacco di buonisti del cazzo che li difendono anche come il nostro amico Parenzo. Cioè, Parenzo di fanno veramente come cazzo a difendere quella gente. Ma prendetene in casa un paio. Pensi un po' quanto sono democratico io. Nonostante il mio istinto sarebbe quello di metterla in una gabbia e di pisciarle dall'alto in basso, il mio istinto, non lo dico e non lo farei. Pensi un po' quanto sono democratico. Maurizio? Maurizio? Sì? Il mio istinto, dopo aver sentito quello che lei ha detto, sarebbe quello di rinchiuderla in una gabbia. Invece il mio sarebbe quello di farla vivere insieme un po' di sti rom una settimana, un 15 giorni, vedrebbe che magari cambierebbe anche idea anche lei. Sì, d'accordo. Avete sentito Radio Hitler, l'intervento di Maurizio dalla provincia di Bergamo. Ciao Maurizio. Andiamo avanti. Allora, Davide da Milano, vai Davide. Sì, allora, io volevo un attimo spostare l'attenzione sul fatto che la cosa che secondo me è più grave di questa vicenda è la risata di Cruciani ieri al primo ascolto dell'episodio. Assolutamente, credo come il 90% delle persone che hanno visto questa roba qua. Il 90% delle persone che conosco che hanno visto per la prima volta il video. Stasera, secondo me, bisogna discutere della risata di Cruciani, non dei due mentecatti mattacchioni. Discuti di quello che ti hanno... Ma puoi discutere di quello che vuoi. Lo trovo il gesto estremamente più violento ma denunciami pure, non ho problemi. Denunciami, dai. Senza neanche prendersi il rischio di andarseli a chiudere, capito? Senza io non chiuderei, non faccio il dipendente della Lidl e non ho campi rom vicino a casa. Ho capito, ma la risata senza neanche metterci la faccia. Dove la devo mettere la faccia? Più faccia di questa che ci metto parlando dicendo quello che penso? Che cazzo dici? Dici? Qual è la faccia? Di che cosa? Chi devo andare a chiudere? Imbecille, non sono mica un dipendente della Lidl. No, quello che e dico allora che cosa devo chiudere io? I due mattacchioni quantomeno erano sul campo da gioco. Erano ma lì cosa vuol dire? Ma strada. Certo che erano sul campo da gioco, erano i dipendenti lì, hanno visto le scene davanti a loro, cretino. Beh, quindi l'hanno fatto e ci hanno riso sopra. E allora io ho riso sul filmato, mi sono messo a ridere perché la risata. Hai ripreso una cosa allucinante. Sì, bene, ma tu puoi criticare quello che ti pare. Sei qui, mi puoi dire qualsiasi cosa, ma non che io non sono sul campo, perché è evidente che lo sono sul mio campo. Non posso essere lì perché non sono un dipendente della Lido. Dunque il paragone è ridicolo. Se poi vuoi criticarmi perché mi sono messo a ridere, criticami pure. Dimmi pure pezzo di merda, stronzo, razzista. No, filo razzista. Che è un gesto violento, benissimo. Estremamente peggiore. Peggiore. Bene, ma per carità. Non so perché si discute dei due. Benissimo, discutiamo anche di questo. Ci sentiamo dopo, non ti preoccupare. Ma sono qui, mica scappo. E non ci mette la faccia. Sono qui, cretino. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top. Siamo il top. Siamo il top. Ma va suca. La zanzara. Là ci vuole l'anarchia. È inutile che cerchi di convincermi. Io la zanzara non l'ascolterò mai e poi mai. Hai capito? Mi state talmente sul cazzo tutti e due che vi devo ascoltare per forza. Maledetti. Cruciani, sei un figlio di puttana. Pezzo di merda. Parenzo, ascolta, da poco è arrivata in ufficio da me una mia nuova collega israeliana, rossa di capelli e che pare non si depili nemmeno. Per una volta nella vita cerca di essere utile a qualcosa, dammi qualche consiglio perché me la voglio assolutamente scopare. Ecco, qual è la tecnica con persone di questo tipo, caro David? Puoi dare questo consiglio a un ascoltatore? Cioè... Questo no, come con tutte, cioè essere gentili, mandare dei fiori, invitarla fuori a cena. Sì, parlare con la voce più alta, così si sente. Sì, offrirle una bella cena in un posto, in una pizza, magari portarle dei fiori, poi magari invitarla al teatro, al cinema. Ma non credo che questo ascoltatore voglia... Fare delle cose normali. Forse l'ascoltatore vuole che metta la mano al culo, allora vediamo cosa succede. Non lo so, fate voi, cioè, ci sono due livelli, secondo me. Il mio è quello di dire: guarda, le mandi dei fiori, oppure la inviti a cena. Ma che mandi dei fiori, sì. All'israeliana, all'israeliana con il coso, dai. E allora fate come volete voi, mettete la mano sul culo, vediamo se non vi arriva la bella sberla ma in no, bacio, ma contenta, che c'entra, sta cercando qualche consiglio perché pensa che tu hai qualche dimestichezza in più con le israeliane, dai. No, sono come tutte le altre ragazze. Là ci vuole l'anarchia. È quello sicuro, amico mio. Ma questo qui non credo che abbia grande successo. Allora, in merito alla Rom in gabbia alla Lidl, sappiate che le Rom fanno la spesa così. Questo è un ascoltatore che mi scrive: prendono i prodotti alimentari dai frigo e li mettono tra le altre merci del supermercato fuori dal frigo. Il personale della Lidl ha a disposizione di gettare nei rifiuti tutti gli elementi da frigo trovati fuori posto. E così fanno quando la sera sistemano gli espositori e la merce. Il giorno dopo le Rom vanno a recuperare la spesa, tra virgolette, fatta la sera prima nei locali privati adibiti a raccolta merce da smaltire. Aggiunge questo ascoltatore: hanno fatto bene a rinchiuderla, se la denunciavano non gli succedeva niente. Ecco, ma il tema non è questo oggi. Ma dai, ma il tema può essere la risata e il video, va bene, dai. Il tema è ancora, ancora, ancora. Due criminali hanno fatto. Criminali quelli criminali, va bene, d'accordo. Sicuramente. Anche lei magari sarà criminale, su questo non lo so, magari ha rubato e quindi anche lei è una potenziale ladra o è una ladra. Ma il tema oggi più il tema oggi sono i due criminali che hanno messo il video online e che ridevano senza dubbio. E ridevano di questo piccolo scherzo fatto. Tra l'altro c'era una seconda rom che non frugava mentre quella urlava, tecnica mi dicono utilizzata dalle rom per gettare un po' di scompiglio. Sì, vabbè, quando... ma si discute sempre di altro. Ma come di altro? Ma scusa, ma poi tu ti sei concentrato ma su questa. Ma difendila, va, difendi. Ma non sto difendendo niente, ma non sei l'unico. Sto mettendo alcuni fatti in ordine, no, perché mi sembra che alcune cose, mi sembra che questi qua vengano fatti passare come criminali, mentre se qualche criminale c'è, forse sta da un'altra parte, questo dico, sono criminali, va bene. Sicuramente magari la ragazza, la signora Roma, anche lei è una ladra, questo d'accordo. Ma questi invece sono criminali, va bene, d'accordo, perché ma io non ho difficoltà a dire che la signora è una ladra, va bene. No, ma non va bene, ladra. Va bene, se questi qua vanno sotto processo e queste qua invece questo livello di giustizia, questo livello che ormai ti ha trascinato anche a te, per cui tu pensi. Ma io non sono trascinato su nulla, io non penso che sia giusto. Gioisci, ti diverti, no, ti mi diverte, è un video che mi ha divertito perché penso che sia tra l'altro una sorta di comicità anche toscana, ripeto, mi hanno detto. Divertivano anche le urla. È un paragone indegno che fai, un paragone indegno. Indegno lasciami dire da chi ha avuto le persone. Ma no, ma lo dico io perché non posso giudicare, scusa. Sono sicuro che negli anni 30 c'era chi rideva di quello. Va bene, ok. Fabio dalla provincia di Torino, vai. C'era chi rideva degli anni 30. Va bene, aspetta, mi scrive un altro. Nella storia dell'umanità sono sempre esistite le creature come lei, Cruciani, esseri viventi senza dignità, che sono incapaci di provare compassione per il prossimo. Grazie a voi il nostro mondo. Aspetta, grazie. No, questo lo dice a me. Grazie a voi il nostro mondo si autoregola provocando morte e sofferenza, cioè genocidi. Cioè, dice che sono complice di un genocidio. Probabilmente siete una sorta di virus autoregolante del sistema planetario. Per poco che potrà contare la mia opinione a tutto il mio disdegno. Un tale che si firma Laszlo. Va bene, Fabio, provincia Torino, vai. Ciao, allora, premetto che io non sono razzista, ho amici di tutte le però non fare questa premessa perché mi fai cadere. Non fare questa premessa ogni volta, dai. Io personalmente ho subito un furto in casa, mi hanno rubato cose sia di valore che affettive. Sì. Mio papà lunedì scorso è stato raggirato da una Rom e tutta la settimana che venivo per rifare i documenti. Allora, com'è possibile che la piaga dei Rom è una seconda non è mai trattata come tale, perché è una piaga, questi qua. Ma certo che chi ruba è un problema. Ma allora perché sono gli italiani che sono sempre messi sotto accusa? Cioè, ma in questo caso, però, scusa, adesso non parliamo di italiani, rom, eccetera, eccetera. Qui stiamo parlando di una cosa. Su questo Parenzo ha ragione. Cioè, perché se rimandiamo tutti i discorsi ai rom in generale, non ne usciamo più. Qui c'è una cosa molto evidente: ci sono due dipendenti della Lidl, i quali hanno sorpreso, così sembra, una signora rom, l'hanno rinchiusa, hanno fatto un video e si sono messi sotto accusa. E adesso sono sotto accusa, sospesi, probabilmente accusati di sé. Cioè, tu daresti una medaglia a questi. Ma assolutamente, io non conosco nessuno che ha a che fare con i rom e non ci rimette. Cioè, ho amici, colleghi che hanno rubato e che hanno subito furti. La risposta delle forze dell'ordine: sono rom, sono minorenni, non gli possiamo fare niente. La stessa risposta che ho ricevuto io. Allora, però ci sono alcune domande, ragazzi. Io però non voglio insistere perché sembra veramente che io sto stimolando quelli che dicono che bisogna termovalorizzare i rom. Io, ovviamente, sono contrario. Io sono contro questa cosa. Allora, potevano stare lì dove sono? La risposta è no. Hanno forzato una porta per entrare in una zona dove non dovevano stare? La risposta è sempre sì, lo hanno fatto, non potevano stare lì. Stavano rubando tra merce destinata ad altri? La risposta è sempre sì, caro Parenzo, stavano facendo tutto questo. Se uno entra in una zona di casa tua, cosa fai tu? Cosa fai? Certo, probabilmente probabilmente chiudi, ma non ti metti a ridere, non fai filmate e non ti metti a ridere. No, chiamo la polizia sicuramente. Va bene, d'accordo, questi qua hanno chiuso. Chiudo e chiamo la polizia sicuramente. Chiudi però. Quello di cui, se sono in casa, provo a difendermi. Sì, provi a difenderti, eccetera. Questi qua, si sta discutendo del buon gusto di questi qua? Del razzismo, di che cosa? Si sta discutendo di due cose. Questi qui l'hanno rinchiusa, ridono e girano il video, compiaciuti del gesto che hanno fatto. E si sta discutendo delle persone che buon gusto, chiamano, cioè sotto accusa il buon gusto. Primo livello, secondo livello, si sta discutendo delle persone che chiamano e che addirittura non solo dicono hanno fatto bene, ma andrebbero bruciati vivi. Ma allora, quella è un'altra cosa. No, io vorrei sottolineare questo. Oggi si sta discutendo. La signora magari è una ladra, questo lo dirà il tribunale. È una ladra, benissimo, è una ladra e deve andare in galera, ovvio. Allora, sto discutendo del livello di civiltà alla quale va siamo bene, arrivati. D'accordo, va bene, da quello è un altro discorso però. Per cui, se licenziate i dipendenti, non metterò mai più piedi in questo supermercato. Scrivo un'altra, fermi tutti, fermi. Allora, da Nemo di ieri mettiamo un po' di roba diversa, non rom, così vediamo se qualcuno vuole intervenire su altro, perché sennò facciamo una monografica stasera, caro Parenzo. Lucci su Emiliano, straordinario, senti. Dovete evitare questa scissione a tutti. Allora io ti prometto che farò ogni sforzo per evitarla. Non dovete far come i ragazzini, che quello lì dice Renzi mi ha detto e Renzi dice anche a Lema. Io vi pia schiaffi a tutti quanti. E ce la metterò tutta. E mi fate incazzare, ma hanno tutti in Siberia. Va bene. Hai capito? Va bene, dammi un altro bacio, compagno. È sempre il numero uno, non c'è niente da fare. Sempre il numero uno, mi candido alla guida del PD. Aveva già detto qui da noi, vai. È arrivato il momento, un momento importante, me lo chiede il paese, me lo chiedono tutti. Mi candido ufficialmente alla guida del Partito Democratico. Il nostro, quello che costruiremo, sarà un mondo bellissimo, sarà il mondo della felicità. Oh, gli ambulanti, ragazzi, penso che questo qua sia un ambulante, caro Parenzo, è un audio abbastanza forte, fortissimo, mandato in onda ieri sera a Piazza Pulita, che resta una delle migliori trasmissioni di talk show in Italia, secondo me. Servizio di Bertazzoni sugli ambulanti, tassisti, sai, tutto quel casino. E senti questo ambulante che ha scatenato anche la reazione di un tuo amico del Partito Democratico che si chiama Carbone, il signor Carbone. Senti l'ambulante che dice, dentro un servizio l'ambulante è scatenato contro il PD, contro Renzi, contro i politici mafiosi. Credo che sia un ambulante, abbiamo ricostruito forse, perché sentiamo. Politico, me venga più a tu fio! Azzozzone politico di sinistra! Io il lavoro ho perso, sono diventato rumeno, non c'ho più niente da perdere! Me vengo a prendere, Renzi! Io non c'ho più un lavoro! Te sgozzo! Me l'ha levato te il lavoro, Renzi! Io te sgozzo! Posto di lavoro nostro ci vogliono levare, capito? L'attività commerciale, sono 40 anni che lavoro, mi vogliono levare la licenza. Questi mafiosi di merda, capito? Questi politici di merda, capito? Vogliono levare il mio posto di lavoro, capito? Questi cornuti. A me se me la licenza ammazzo, tutti quanti ammazzo. Il PD deve andare a fanculo! Noi siamo un popolo italiano e vogliamo veramente avere rispetto per quello che noi facciamo, per quello che hanno fatto i nostri padri! Se tocca il pane al lavoratore diventa peggio di Totorina! Totorina, diventiamo peggio! Allora, qui si pone lo stesso discorso che faceva prima qualche ascoltatore. Cioè, bisogna mandare in onda queste cose. Ma ragazzi, ma assolutamente sì. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, Formigli fa benissimo. Dunque, non rompete i coglioni a noi. Cioè, Formigli, criticato da uno del PD che stava vedendo quella roba lì, Carbone. Sentiamo quando dice: mi ha scritto Carbone che vuole fare un esposto. Sentiamo. Grazie, intanto voglio dirvi, mi mandate quel tweet dell'onorevole Carbone per cortesia, Ernesto Carbone, parlamentare del PD, visto Piazza Pulita, viva il giornalismo, ma c'è limite, insulti e minacce, andate in onda, domani esposto a Gcom. Credo che l'onorevole Carbone si riferisca alle violentissime dichiarazioni che abbiamo sentito da manifestanti nei confronti di Renzi, del governo, dei politici. Allora, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ma veramente pensate che si possa censurare questa roba qui? Questa roba qui deve giustamente emergere. E Formigli fa un discorso chiarissimo. Cioè, manda in onda un servizio con delle voci. No, è inutile che dici no, forse perché. Perché. No, quello sì. Certo, ma no, ma allora non puoi difendere Formigli e dire che qui intervengono persone che non dovrebbero dire quelle cose. Queste cose qui, se uno le vuole dire, le deve poter dire. Poi certo si assume le responsabilità. È quello, certo. E allora, appunto, e basta. Quello che critica, esposto, eccetera. Esposto di che? Ma quale esposto? Guarda dalla televisione e state zitto, no? Gabriele da Cesena, dai. Sì, ciao, buonasera a tutti. Volevo intervenire sul discorso delle due donne che sono state ingabbiate. Sì, sì, sì, dai. E io in questo caso appoggio Parenzo. Sì, su che cosa appoggio sul Parenzo? Sul fatto che diceva prima che nel 38 più o meno è successa la stessa situazione, che è cominciato con la gente che rideva e poi piano piano li hanno messi nei forni. Nel 38 c'erano intanto gli indifferenti. Ragazzi, è una puttanata, dai, è una puttanata colossale. Cioè, paragonare i Rom, quelle due Rom, a quelli che andavano a Mauthausen. A Mauthausen oppure a Buchenwald è una follia di cui io credo che molte persone della comunità ebraica come te sono contrario a questa cosa che dici. Hai travisato perché il mio problema no, ma questo non hai detto, Roma. Dai, questo no, hai detto. Ho ma detto, che c'entra certo, la reazione? È chiaro che chi dice sto dicendo un'altra cosa. Chi dice del Trevo vabbè. No, io mi riferisco non alle due Rom là. Così hai detto. Io mi riferisco al livello di barbarie che come nel 38 la gente quando cambiò la legislazione. Ma non è la stessa cosa. Ma non puoi paragonare momenti storici e cose diverse, dai. Certo, il ragionamento è un po' ma più sofisticato, no. Ma vedrai che qualcuno lo capisce. Gabriele, allora che stavi dicendo? Capisce. Ma sto scherzando. Vedrai che ma anche lui lo capisce. E allora cosa devo fare, Gabriele? Non devo far sentire quella voce là di prima? No, io avrei limitato l'intervento di certi coglioni. Sì, limitato, ma io non limito. Ma io non limito. La razza umana si deve estinguere se c'è della gente. Ma io non limito un cazzo, sei tu che limiti, io non limito nessuno, fermalo. Ma sì, ma una persona intelligente deve fare un ragionamento del genere e dire dobbiamo prendere e termovalorizzare. Fermo, adesso te ne faccio ascoltare altri, aspetta, fermo, fermo. Quando è che chiudete, cornuti? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Parenzo, la gabbia rotture o gabbia dei rotti nel supermercato non è uno spazio dove mettono l'immondizia, è uno spazio dove si mettono prodotti ancora mangiabili ma la cui confezione magari è stata aperta oppure è parziale. Di solito quello che c'è nella gabbia dei rotti poi viene dato via in beneficenza, quindi le due zingare stavano rubando. Parenzo, c'è la solita testa di cazzo, quelli non sono rifiuti, sono oggetti da rendere indietro alle aziende perché sono rotti, quindi non sono rifiuti. Quella zingara di merda si stava fuori dalla gabbia e nessuno la rinchiudeva, vai a fare in culo. Roma non si capisce un cazzo di come andrà a finire la questione dello stadio, caro Parenzo, sono cazzi tuoi. Il sindaco Grillo ha detto che bisogna farlo da un'altra parte, perché il vero sindaco, io ormai lo ripeterò fino all'ultimo, e quindi non si farà, è Beppe Grillo. Il signor Di Maio, che è il vice sindaco in realtà, il vice sindaco di Roma, Di Maio, dice che non si vuole inchinare al dio cemento. Che cazzo vuol dire, Di Maio? Il cemento esiste, purtroppo. Col cemento si costruiscono le case. Come cazzo si fa a costruire senza cemento? Forse vuoi fare lo stadio in 3D? Noi non ci inchiniamo al dio cemento in questa città, ma pensiamo che la Roma debba avere uno stadio e vogliamo trovare la soluzione migliore per mettere insieme entrambe le cose. La taverna dice che il terreno è a rischio idrogeologico. Il consigliere comunale taverna, perché qui in realtà e questi dei 5 Stelle a Roma, dalla Raggi in giù, non contano una beniamata mazza, caro Parenzo, lo sai, no? Cioè, comanda una. Grillo, però ragazzi, devi fare in modo che si senta bene, Davide, sennò altrimenti non sentiamo un cazzo per tutta la puntata. Cioè, o ti metti più vicino, o cambiamo metodo, non lo so. Comunque, Grillo è il sindaco, lo so, amico, devi metterti più vicino, sennò non si sente. Cioè, faccio una fatica tremenda anche a capirti. Cioè, sindaco Grillo, vice sindaco Di Maio, e poi tutto quanto il cucuzzaro 5 Stelle è quello che comanda. La Di Battista, la taverna, eccetera. Taverna. Dobbiamo ovviamente fare i conti con una zona che è sotto un rischio idrogeologico, dobbiamo fare i conti con il fatto che lo stadio è il 14% di un progetto che prevede tutto, non solo lo stadio, prevede tre torri, prevede 1.000.000 m³ di cementificazione e non è assolutamente il progetto del Movimento 5 Stelle. Allora, Mallio, provincia di Lecco, vai Mallio. Ciao. Dimmi Mallio. Senti, dimmi. Finalmente, io non riesco a capire come fai a non capire il ragionamento di Parenzo. Io capisco il ragionamento di Parenzo, per carità, lo rispetto assolutamente quando dice che lui ha orrore di quello che hanno fatto, ha orrore di quello che hanno fatto quei due. Io non lo condivido, ma lo rispetto. Il paragone. Del paragone. Ma non c'è il paragone è un altro, è sul fatto che non sul fatto in sé, ma sulla barbarie del cambio di civiltà che noi diamo, risulta normale o quasi giusto rinchiudere una persona, due persone dentro una gabbia, riprenderle. Ma amico mio, ma non c'entra mai tu. Stai facendo il paragone. Hai fatto un paragone con l'olocausto. Sul fatto che non ci si indigna. Vabbè, ma hai fatto un paragone con l'olocausto. Adesso invece vuoi tornare indietro, dai. Il paragone è sull'indifferenza. Sì, ma hai ragione quando fa il paragone con l'olocausto. Perché la radice dell'odio. Ma ragazzi, ma non diciamo cazzate, dai, ma non diciamo puttanate. È esattamente la stessa radice di odio. È una puttanata inaudita, dai. Un'altra persona tra virgolette, se te la pigli con una anche una femmina, ragazzi, è veramente una stronzata. Sarà una ladra. Ma come? Ma ho detto un'altra cosa. Sì, vabbè, Davide, però adesso non la fare così complicata. Hai fatto un paragone con l'Olocausto, punto, dai. Non è complicata. Allora, hai fatto un paragone con l'Olocausto, dai. Ma no, ma hai fatto un paragone. A te piace semplificare. Se io dico cazzo, porca puttana, ma che c'entra? Ma cosa c'entra adesso? Ma perché ti piace semplificare? Ma semplificare, hai fatto tu il paragone con l'Olocausto, non io, tu l'hai fatto. Un'altra cosa, avanti, ti sentiamo quest'altra cosa. Non l'ho capito. Se faccia, tu professore, spiegaci la tua idea, avanti, forza. La cosa uguale è all'Olocausto, all'Olocausto. Quando nel 38 il fascismo cambiò le leggi. Vabbè, incredibile. E ecco. No, ma va bene. Allora dico quello che vuoi. Hai paragonato il 38, l'Olocausto. Ma tu hai fatto le date, tu le stai facendo. Ho detto che come nel 38, quando introdussero le leggi razziali. Va bene, ma appunto. Va bene, la gente si voltò dall'altra parte, fu indifferente rispetto al cambio di diritto. Ottimo. Benissimo, ho capito benissimo. Oggi abbiamo capito. Noi siamo indifferenti al cambio di passo in cui non si cambia il diritto, per fortuna, ma diventa normale. Ecco. Il fatto che due persone vengano rinchiuse in una gabbia. Abbiamo capito tutti, benissimo. Marco dalla provincia di Lucca, vai Marco. Non è complicato. No, non è complicato, ma è chiaro. Ma Davide, fai il giornalista come me, fai il comunicatore come me. Hai fatto un paragone con l'Olocausto, punto. Marco dalla provincia di Lucca. Ma lascia perdere che sia la reazione della gente e così altro. Hai fatto un paragone col 38 e con l'Olocausto, dai. La gente si è voltata. Dai, tanto non c'è niente da fare. Hai quest'aria professorale. Oggi hai l'aria professorale. Vabbè, dai, Marco dalla provincia di Lucca, dai. Sono io, Peppe, Marco, posso vai. Parlare? Sì, Marco, vai, forza. Marco, ciao, dai. Sono Marco, sempre quel ragazzo con Sean, il ragazzo di Pisa. Sì. Ascoltami, volevo dire a Parenzo una cosa. Sì. La mia mamma, la buonanima della mia mamma, era ebrea. Tanto gli ebrei si riconoscevano più che altro dal cognome. Ma va bene, lasciamo aperto tutto questo discorso così, che tanto e poi è complicato. Ma quello che volevo dire io, per quello che è successo, per quelle due zingare che gli hanno rinchiuse nella gabbia, cioè alla fin fine una persona che lavora in un posto, cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto dire andate via, che poi è normale. Guarda, io vivo nella strada, Peppe, ascoltami Peppe, ti dico una cosa, a me non mi piace arrabbiarmi perché tanto non serve a niente, il mondo è bello perché è vario. Io vivo nella strada. Quando ti sei fatto la spada oggi? Tu pensa, guarda, che sono ancora qua seduto col mio cane, sono da stamattina, guarda, sono 6 euro fatto, ancora non ho mangiato, ma non ma quanto, quando ti sei fatto la pera oggi? No, sono un mese adesso, perché sto prendendo il metadone, mi sto togliendo tutto, perché forse ho la fortuna di andare. Ma questa è buona, è da un mese che non ti fai? Sì, un mese. Cioè, l'ultima volta che hai chiamato, però te l'hai appena fatto. L'ultima volta sì, poi un'altra volta ancora e poi basta, non mi sono più fatto, perché ho detto basta, non è più possibile, anche perché se vuoi con 5 euro te la compri a piso. Vabbè, lasciamo stare quel 5 euro per fatte una spada? Sì, ma tanto non è roba, lo sai, te l'ho detto. Tu te lo ricordi, Parenzo, tanto per cambiare un attimo argomento, te lo ricordi, Parenzo, la definizione di spada, no? La spada, no? Mitico film, come Amore no? Tossico. Amore tossico. Film, sul mare di Ostia. Cioè. Sul mare di Ostia, Amore tossico, vattene una spada. Marco, sei stupendo. Io voglio che tu guarisca, però, voglio che tu voglio che tu esca dalla cosa. Non è che, no, ma l'ultima volta, perché amico mio, l'ultima volta che hai chiamato eri là, è bello, fa sapere. Se ci sto riprovando, a 56 anni ci rivoglio provare. Adesso vediamo. Non voglio fare cosa, sembra che faccio, come si chiama, Ferrero. No, là. Assolutamente. Le faccio le pere. Effettivamente, aspetta un attimo Marco, il Ferrero fatto da Vid da Crozza sembra un po' un tossicomane. Beh, no? Sembra uno che fa un po' uso di sostanze. Allora mi sono fatto una pera stasera, che dici? Almeno sei ironica. Ascolta, senti Marco, il metadone come va? Sì, vabbè, ho capito. Sono a 10. Sei a 10 che cosa? 10 sono 2 mg di quello concentrato, che sono 1 mg, sono 5, quindi sono 2 mg, niente, pochissimo, sono a 10. Poi magari fra un mese, se ce la faccio, ho finito tutto. Dopo che succede? Ma ce l'hai ancora? Mi hanno dato la possibilità di farmi un viaggio e andare via da qua, dall'Italia. Me ne voglio andare. Jump. Calma con i viaggi, già te ne sei fatti tanti. Voglio andare a fare di nuovo l'artista. Marco, stai tranquillo. I viaggi già te ne sei fatti tanti. La cosa che voglio capire io è il metadone, che effetto fa? Cioè, c'hai dentro di te ancora la cosa dentro dell'eroina? Immagino di sì, ogni tanto il pensiero ce l'hai. No, il metadone è solo una copertura per non farti. Se poi ti vuoi fare, ti fai uguale, non è che cambia. Ho capito, ma tu ce l'hai ancora, ti viene la non è meglio che te ne vai in una comunità, scusa? No, non ho mai accettato queste cose. Ma amico mio, vatti in una... Non c'è migliore comunità di quella che tu hai dentro la testa. Quindi ma questo sono d'accordo con te, che bisogna guarire dentro la testa, però... Se mi fai dire delle cose... Buono, ascolti, io ho il 99% dei miei amici... E io ti parlo che sono dal 76-77, che mi faccio, quindi sono 40 anni. Il 99% delle persone che sono entrate in comunità anche hanno fatto 2-3 anni, quando sono uscite si sono fatte di nuovo. Quindi ma mica è sempre così. La comunità è un punto di... Vabbè, ho capito, poi devi guarire. Ma ho capito, poi dentro la tua testa devi cambiare, devi fare tutto, d'accordo? Certo, però serve la comunità. Serve la comunità. Faccio essere un pochino più forti, dai. Vabbè, Marco, ti do un abbraccio, dai, mi raccomando. Se mi potevi permettere Sì, veloce però, dai, veloce. Dimmi. Certo, velocissimo, assolutamente. Quello che volevo dire io a Parenzo, io gli voglio un sacco di bene a tutti e due. Lo so, amico mio, ma noi ti vogliamo aiutare. Vai avanti con sto metadone, mi raccomando, non ti fare più l'eroina. Certo, no, assolutamente. Assolutamente, un cazzo di volta. Siamo arrivati in un punto nella strada, in un punto di non ritorno. Io nella strada che ne vedo tante, ma ne vedo più magari anche delle forze dell'ordine, cioè i rom hanno fatto, però andiamo a ridurre la cosa, hanno fatto bene quelli a ingabbiare quelle rom dentro o no? Ma sì che hanno fatto bene, perché non avrebbero potuto fare altrimenti, perché erano dipendenti di quel posto. Vabbè, ciao amico mio, ti abbraccio, forza, vai avanti, ciao. Allora, Matteo Salvini, che abbiamo in collegamento, ha nel pomeriggio, qualche ora fa, anzi in mattinata, ha scritto: io sto con i lavoratori, li contatterò già oggi per offrire loro tutto il nostro sostegno, anche legale, non con le rom frugatrici. Ma quanto urla questa disgraziata, eccetera, eccetera. Un post che ha fatto molto discutere, c'è addirittura, come al solito, sembra ormai un duello a distanza quasi. Parenzo, una risposta molto dura del signor Saviano, Roberto Saviano, che pare un lettore molto attento dei post di Salvini. Salvini, buonasera, eccoci qui, ciao. Buonasera, un abbraccio a Marco e complimenti alla Zanzara, che riesce anche laddove le comunità non arrivano. Tieni no, duro, Marco. Marco è un grandissimo ascoltatore della Zanzara, il quale è eroinomane da diverso tempo, da tanti anni. Adesso da un mese sta cercando di una strada col metadone, noi siamo molto contenti e non vuole andare in comunità, però speriamo che tenga duro. Senti la radio ogni volta, chiamaci quando ti pare, noi siamo con te. Perché... Se voi volete... fuori onda, girargli il mio numero di cellulare, io una chiacchierata con Marco la faccio volentieri. Bene, allora andiamo sui rom, caro Parenzo. Questo diciamo per giustificare, questo per sembrare un po' più umano rispetto alla disumanità mostrata nei deve confronti. Vabbè, adesso questo qua è un atto, è un atto di... è il tuo classico modo per mostrarti umano rispetto però, alla disumanità dimostrata con le due persone messe in gabbia. Scusami, però adesso io... spegniti. Però oggettivamente, ragazzi, ha detto una cosa che riguarda una persona tossicodipendente. Perché devi collegare questa cosa alla questione dei rom? No, perché la disumanità di quello che è avvenuto in quell'episodio e la risposta politica che Salvini ha dato dicendo siamo pronti a dare tutela legale perché e a cosa ridere c'è delle urla. Siamo pronti. Hai sentito qualcuno dei due? Sì, ho sentito uno dei due sicuramente, che ovviamente sono frastornati. E candidati anche in lista. Sentili in lista. Se si può esprimere un concetto. Vai, dimmi, l'hai sentito o no? La gente è stanca. L'hai sentito o no? Dall'ufficio. Sì, l'ho sentito. Lì non ci sono sindacati che tutelano nessuno, sono 25 dipendenti. Queste due soggettine erano, ahimè, ben conosciute sia ai lavoratori che ai frequentatori del supermercato, erano solite tirarsi sulle mutande anche in presenza di bambini, andare in giro piotte, erano soldi, si può dire pisciare dappertutto, si può dire, entrare all'interno del supermercato nel reparto alimentare, fare ogni genere di zozzeria, minacciare, a volte si era arrivati alle mani, quindi non erano due passanti casuali, erano due soggetti ben noti. Ma questo te l'ha raccontato uno dei due? Questo lo raccontano alcuni lavoratori, ma questo lo raccontano anche molti cittadini di Collonica che oggi stanno scrivendo sui social, sulle pagine del Lidl, e raccontano per cui hanno fatto come bene. A volte è difficile fare la spesa. Per cui hanno fatto ora, bene. Io non entro nel merito, potevano non ridere, potevano... Beh, non è anche quello il merito video. Però, è anche quello il merito. No, per carità di Dio, uno può dire, ma fanno male a ridere, dovevano piangere, dovevano stare in silenzio, dovevano farsi il segno della croce. L'esasperazione di gente che lavora a contatto... Beh, non erano esasperati quelli però, non sembravano esasperati. No, avevano avuto a che fare volte e volte con queste signorine. Quindi dal mio punto di vista, se devo scegliere se stare con dei lavoratori sottopagati, esasperati, che non ne potevano più, o con due signore che vivono di espedienti, mettiamola così, che rompono le palle al prossimo da anni, con quel di Follonica, assolutamente so da che parte stare. Se gli serve un avvocato, glielo forniremo gratuitamente. Ecco, ma tu hai sentito uno dei due, ma c'è la possibilità che li licenzino, perché li hanno sospesi per adesso. Sono sospesi dal servizio. Ora io mi permetterò di contattare anche i dirigenti della Lidl, della multinazionale tedesca. Per spiegare che se c'è bisogno di far passare la buriana, per carità di Dio, ma che ci siano due padri di famiglia che possano rischiare il posto di lavoro, perché in maniera eccessiva o meno non sta a me giudicarlo. Cioè, hanno difeso il loro datore di lavoro, perché queste signore erano in una zona dove non si poteva essere, facendo cose che non potevano fare. Tu dici una follia? Assolutamente fuori discussione. Assolutamente. Cioè, addirittura andare a farsi un giro sulla pagina Facebook Lidl Italia per leggere i loro clienti, non Salvini, eccetera, eccetera. I loro clienti che cosa non chiedono? Quantomeno un encomio. Ecco, ma tu sei mai andato alla Lidl? No, non ce li ho vicino a casa. Ogni tanto in montagna sì, non ce l'ho vicino a casa. Cioè, non se questi qua fossero sospesi o avessero un provvedimento, tu boicotteresti i prodotti Lidl? Assolutamente, tutta la vita. È quello che molti acquirenti... Bello, un politico che lo fa, bravo però. Cosa un politico che lo fa? Un politico che addirittura dice boicottiamo la Lidl Italia. Cioè, a me cosa me ne frega della Lidl no, Italia? Semplicemente capisci, mi sembra folle. Cioè, la Lidl è imbarazzante perché... due lavoratori che se si fossero voltati dall'altra parte sarebbero stati accusati di voltarsi dall'altra parte. Ma se uno interviene sbaglia a intervenire. Se uno però non interviene sbaglia da Salvini perché non questo. Dimmi. Abbiamo capito dall'onorevole Salvini che in alcuni casi vale la sospensione dello Stato di diritto. Cioè, ma dov'è la sospensione dello Stato di diritto? Scusa. La sospensione dello Stato di diritto vuol dire che... Ma 10 minuti dentro, adesso stai 10 minuti là dentro, che cosa è successo? Abbiamo capito che due persone dentro una gabbia riprese e derise, cioè la sospensione dei diritti dell'umanità delle persone vale. Abbiamo capito questo. Se le due oneste ragazze rom fossero state sul posto di lavoro non sarebbe successo loro niente. Poi basta basta leggere la cronaca, due casi di febbraio, non di 6.000 anni fa, febbraio 2017. L'ultimo Carbonia, miniera d'oro nel campo rom, gioielli Rolex. Ma cosa c'entra? Roma, all'inizio del mese, 10 figli e 25 condanne, ma arrestata mamma. Stiamo parlando di un'altra Bossetto. Cosa. Ragazzi, stiamo parlando di una comunità che non si vuole integrare. La responsabilità penale è personale. Sì, campa cavallo, pieno di rom che lavorano. Ma hai capito? C'è la cultura di... Hai capito perché la roba di Salvini è pericolosa? Cioè, io non ho capito. Salvini, Matteo, secondo te i rom... La responsabilità collettiva di una comunità. Stai dicendo che non servono, sostanzialmente non servono. Non servono, no, secondo non te? Servono. Uno su 100 vuole vivere come in un paese civile si vive, lavorando, mandando i figli a scuola, pagando le tasse, vivendo in una casa. Hai capito? Ce ne sono 40.000 di questi soggetti in Italia che non sono integrabili perché non si vogliono integrare. Ma cosa si mette a disposizione? Cioè, quelli che sono italiani dovrebbero essere sgomberati dai campi, quelli che non sono italiani dovrebbero essere riportati al loro paese. Un deputato all'Europarlamento, nonché segretario di un importante partito che... Quello che purtroppo si apprende come la Le Pen a vincere di salame sul... ci sta spiegando che vanno fatte le leggi su base razziale. Ma quale legge, su base, scusa? Di gruppi etnici. Ma che cosa stai dicendo? Ma quale legge, su base dei gruppi etnici. Cioè i gruppi etnici vanno giudicati erga omnes per tutti. No, no, no. Siccome i rom rubano, quindi va fatta una legislazione rom. No, ma non lo so, magari, magari ce l'ha in testa, non lo so. Cioè bisogna fare una legge, scusa, speciale per i rom. Fammi capire. Questo ha detto. Capire. Ma cosa avrebbero che la, la responsabilità penale non è personale per Salvini, è collettiva. No, ma io sto dicendo, ci sono, no, 40 hai detto che è collettiva la responsabilità penale. Ma, no, no, aspetta, aspetta, allora, ci vuole ci una legge. Ci sono 40.000 rom che in Italia, nonostante milioni di euro spesi, nonostante i campi, le rulotte, allora, l'integrazione, non si vogliono integrare, l'Italia non è posto per loro. Dunque c'è bisogno di fare una legge speciale per i rom? C'è bisogno di fare una legge speciale per i rom? Sono 40.000. Il problema un ministro dell'interno normale lo risolve in un mese. Non c'è bisogno di una legge. Le leggi ci sono, basta farle applicare. Peccato che Maroni è stato ministro degli interni e mi pare non abbia risolto il problema. Noi eravamo partiti col piano rom e il censimento dei rom africani. Ma sono, una... dei rom. Ma sono la parte peggiore della società i rom, secondo te, in Italia? Ma no, ma sono un non problema risolvibile in un quarto d'ora. In un quarto d'ora, cioè in un quarto d'ora si può risolvere il problema. Applicando la legge vigente. Cioè ti... spianare i campi rom? Spianare i campi. Bambini di sei mesi per educarli al furto, per eliminare le semafori. Cioè se tu fossi al governo un piano speciale per i rom, un piano speciale per i rom io da applicare. Io riprendo a fare quello che avevamo cominciato a fare col censimento. Cioè tu faresti subito un piano speciale per i rom? Ha inventato un nuovo reato, la responsabilità ma penale per genere, Salvini. Non sono 40 milioni, sono 40 mila. È un problema che a legge vigente non c'è bisogno di una nuova legge. Che si risolve in un quarto d'ora. Si risolve in un quarto d'ora facendo rispettare la legge. Poi se su questi 40.000 ce ne sono 40, 400, 4.000 che vogliono rispettare la legge, pagare le tasse, mandare i figli a scuola, vivere in una casa che pagano, sono benvenuti. Uno può essere rom, cuimese o finlandese, chi se ne frega. Ma ho la vaga sensazione che questi campino alle spalle del prossimo perché a loro fa comodo così, perché finché ci sono i Parenzo, i D'Alema, i Saviano che li difendono, questi se la ridono. Torniamo su Saviano, torniamo su Saviano adesso tra qualche istante, fermi. Lasciativo Parenzo e alla defecazio non ci penso. Quel nano malefico. La zanzara. Allora, Davide, mi ha scritto un avvocato, perché tu ogni tanto dici è giusto che i cittadini intervengano quando vedono un reato, no? Magari non è il caso di questi qua, di questi due della Lidl, anche se poi tecnicamente può essere interpretato così. Allora, ogni cittadino, mi scrive questo avvocato, può arrestare una persona colta in flagranza per reati perseguibili d'ufficio. E dunque, se non fossero stati stranieri, la mia impressione è che il dottor Parenzo non si sarebbe schierato dalla parte di chi delinque. Ma assolutamente no. Beh. Io mi sono schierato contro il video, la barbarie delle risate di questi qui. Vabbè, ma quello è il buon gusto, quello può essere il buon gusto. No, no, non è buon gusto, è il livello al quale siamo arrivati ormai, è questo qui il punto. Vabbè, ecco noi, Matteo, se l'onorevole Salvini arriva a identificare addirittura un reato per cui la responsabilità penale nel nostro paese è personale. Ha detto che bisogna risolvere la questione Rom, non è che ha detto. No, lui lo ha esteso come reato di categoria. Ma non mi pare, non penso che ci voglia un reato riferito all'etnia Rom. Lui dice che 40.000 Rom che sono in Italia sono tutti dei ladri. Evidentemente salta il principio della responsabilità penale personale. Sono quelli che si ostinano a vivere nei campi al di fuori della legge, perché ce ne sono altre decine di migliaia che vivono come persone normali, sono miei fratelli. Il problema sono quei 40.000 tendenzialmente parassiti che vogliono vivere al di fuori della legge. Punto. Senti, Saviano, potrebbero essere finlandesi, ma sarebbe un problema di diritto. Saviano ha scritto che va isolato immediatamente perché un delirio, perché D'Alema ha detto che sono socialmente pericoloso, ma si è sfogato il PD, pensavo che fosse impegnato nel rimandare le elezioni perché c'è il suo congresso, però evidentemente dice provo pena e disprezzo per i 30.000 utenti di Facebook che hanno mostrato apprezzamento per questo abominio, cioè quello che hai scritto, istigazione a commettere reati gravissimi, che vuoi dire, ma su Saviano? Ma quelli che rubavano teoricamente erano gli altri. Il sequestro di persona, così dice Saviano, perché ma scusa, perché se ti trovi uno in casa che ruba, lo lasci uscire o lo chiudi in casa in attesa che dunque vanno premiati con qualche che so, vanno, ma assolutamente vanno promossi, è tutto, vanno promossi in un paese normale, vanno... i due soggetti vanno promossi come direttori di filiale. In Italia può essere che le due rom vengano assunte e vadano al reparto alimentare. Può essere tutto. Beh, no, vita, non credo. Guarda che qui nessuno discute. Non credo, non credo che se fossero assunte ci andrebbero, due, secondo me. A parte che va dimostrato che stavano rubando. Questo è probabile. Secondo me se gli offrono l'assunzione... No, attenzione, ha ragione Parenzo, probabilmente non stavano rubando. No, stavano ma... così, esperendo, stavano ritracciando. È interessante questo, è interessante, no, che nessuno... A chi degli ascoltatori non è mai capitato di infilarsi nei cassonetti dei supermercati? Sì, stavano, a chiunque capita di ravanare nei cassonetti. Stavano rubando dai cassonetti, bravo. Ma non stavano nei cassonetti, dai, era la roba peraltro destinata. La cosa comunque, che mi fa incazzare... Mi fa piacere che siete sulla stessa linea, no, e quindi ma su questo, io sono felicemente in minoranza Giuseppe, dalla parte di chi si indigna per queste erano cosa, destinati quei prodotti. No, ma infatti, Davide, dovresti incazzarti. No, ma dovresti incazzarti, Davide, tu, uomo di sinistra, ti dovresti incazzare perché quella roba lì, probabilmente, no, ma per dire, la roba lì, quella roba lì, probabilmente era destinata ai poveri veri. Quella roba lì, taroccata, certo, assolutamente. Quella roba lì, taroccata, taroccata forse perché poi hanno fatto il magheggio di andare dentro là e spostare le cose. Era destinata ai poveri veri, quelli non sono poveri. Quelle roba non sono due poveracce, chiaro. Mi fa piacere che anche tu finalmente difendi i poveri. Ma io guarda, sono incazzato come una bestia perché si dà l'impressione che quelle due sono due poverette. Probabilmente stanno in un campo rom dove sfrecciano le Mercedes, questa è la realtà. E non prendere questo come un comizio. Ma non c'è nessun problema. Ma che capolista, ma vai a fare il culo. Tu è capolista, dai. Capolista di Re Conservini, Parenzo si ricorda dell'operazione il luogo comune, quelli vivono in un campo rom con le Mercedes, ma non vi vergognate di parlare per luoghi comuni, ma non vi vergognate, ma parte il fatto che parlate per domani... luoghi comuni. Vabbè, fai parlare un attimo, dai, si può parlare, vai dimmi. Accompagno domani Parenzo in un campo rom qualunque a Milano, ad esempio quello di via della Chiesa Rossa, e vediamo che macchine hanno. Non so se Parenzo poi si ricorda il blitz nei campi rom di Torino e Genova dello scorso autunno con 6 milioni di euro sequestrati dai conti correnti a gente che prendeva tutto il consiglio uguale, del comune e aveva la casa popolare. Tutto nello stesso calderone. Della loro cultura. Se glielo fanno fare, questi lo fanno. Ma ragazzi, però scusate, non dovrebbe essere una cosa di sinistra difendere i veri poveri rispetto a quelli che fregano i soldi, che prendono i soldi dallo Stato? No. Dovrebbe essere una cosa di sinistra difendere i veri poveracci, quelli veramente in difficoltà. E bravo, non la gente giusto, che va a rubare nei supermercati, bravo, giusto, cazzo. Ragione, giusto, ma bravo, dovrebbe bravo, essere una cosa bravo, di sinistra. Bravo, giusto. Ma giusto, difendere giusto, la gente che ha veramente bisogno, non questi qua. Non ho difeso i ladri. Ma non ho se quelle due sono... Io mi sto incazzando. Ma quelle buon gusto. Non hanno, vuoi che ti dica che non hanno avuto buon gusto questi due a fare il filmato? Non sì, è probabilmente è così. Gusto. Non hanno avuto buon gusto. Non è il razzismo, buon gusto. È razzismo. Non ho mai sentito difendere i poveri. È razzismo. Ogni volta che c'è una manifestazione in piazza di qualcuno che perde il lavoro, tu dici sempre chi se ne frega. Ma sì, assolutamente, perché le manifestazioni oggi non mi piacciono. Questa pantomima di oggi della difesa dei poveri. Ma no, ma non è difesa dei veri poveri. Pelosa vabbè, quanto un gatto malato proprio. Matteo, voglio sempre... Dimmi. Ma vi pare normale che ieri un giudice del Tribunale di Milano, la signora Martina Flamini, abbia condannato me e la Lega a pagare 10.000 euro perché abbiamo usato il termine clandestini, che per loro è denigratorio, e oggi siano usciti i dati che dicono che solo dall'inizio dell'anno sono morti 366 però... immigrati. Ma non si può usare la parola clandestino? Ma sì, ma quello è ridicolo. Ma di che cosa stiamo discutendo? Allora, Civati ha offerto... È pericoloso un paese, mi dicono... Sentite, dove si processano le parole. Sentite questa. Allora, Civati, che è un ex leader del PD, ex protagonista del PD, adesso c'è un movimento suo, ha offerto la tutela legale alle due rom, come la Lega le ha offerto. Il Codacons ha chiesto il licenziamento dei due, il Codacons. E la CGIL ha annullato l'iscrizione di uno dei dipendenti, che era peraltro un iscritto alla CGIL, Parenzo, negandone ogni tutela legale. Cioè, questo è il punto della situazione. La CGIL vabbè, vedremo. La famiglia si piglia, se la CGIL, Civati, Codacons preferiscono le due rom che stavano frugando, Io preferisco stare con i due lavoratori. Ma è bella la capacità di cambiare le cose, interessante la vostra capacità. Cioè, ma scusa, appena letto le notizie, Civati offre assistenza legale alle due rom, la CGIL disconosce i due lavoratori e il Codacons. Guarda che quando, quando i lavoratori, è interessante, perché quando i lavoratori, la promozione dei due ragazzi, noi in questo caso qua non è lavoratori, in questo caso si sta parlando di un atteggiamento criminale che hanno commesso due persone. No, loro erano sul posto di lavoro, le due signore no. Loro erano sul posto di lavoro. Comunque fate parlare i cittadini. È bello come invertite fate le cose. Parlare chi va a fare la spesa in quel supermercato e chi lavora in quel supermercato. Senti, fate parlare loro. Sala, ho saputo secondo me dovesse farlo diventare un nuovo caso Tortora. Ho saputo che guarda, non sottovalutare secondo la cosa, me, perché guarda, se questi due fossero licenziati, la frittata, candidarli come che, caso Tortora. Questi personaggetti di sinistra che hanno perso il contatto con la vita reale stanno sottovalutando il fatto che la gente si sta arrabbiando. Io vorrei evitare. Ma tu, se fossero licenziati, li candideresti sul serio? Li candideresti? No, certo. Li candido, no, farò di tutto perché mantengano il loro posto di lavoro. Punto. Basta, tutto lì. Mi interessa che due padri di famiglia riescano a tornare no? a fare il loro lavoro. Punto. E se la Lidl licenzia, che succede? Arrivo fino al direttore generale. Riassume Radio direttore Catania, generale. Gli dà una rubrica. Intanto boicottaggio dei prodotti. Ma quello lo scelgono. Guarda, andate sulla pagina Facebook Lidl. Sì, lo so, ho visto. Leggete cosa stanno scrivendo. Vabbè, tu lo faresti, però tu lo faresti il boicottaggio se dovessero permanere. Io, se ce l'avessi di fianco a casa, fino a che non reintegrano quei ragazzi, non vado a comprarci neanche uno spazzolino da denti. Questo è fuori. Va bene, Sala mi hanno riferito che vuole andare fino in fondo con questa vittoria. Adesso ha messo anche i banani. A Piazza del Duomo metteranno anche i banani a Piazza del Duomo quello che è grave è che il Comune di Milano abbia appaltato una multinazionale americana in cerca di pubblicità il decoro di Piazza Duomo che necessita. Vabbè, però incassano dei soldi, incassano dei quattrini, cioè, io ho capito, è importante, ma se decidessero quello di riempire di cactus e coccodrilli Piazza del Duomo, glielo facciamo fare perché adesso va bene tutto. Vabbè, però non è che ci sono i coccodrilli e che bisognava mettere il coso, non ho capito, il panorama con le montagne, cioè non lo so. Piazza Duomo è bella perché c'è il Duomo. Sì, perché non c'è un cazzo, devo dire la verità, è meglio non mettere un cazzo, dai. Ah, siamo d'accordo. È meglio non mettere nulla. No, ma io sono d'accordo, è meglio non mettere niente. A parte il dibattito palme banani, noi stiamo cercando di portare avanti un progetto che porterebbe lavoro a Milano, che è quello che riscopre e valorizza i Navigli. Ma scusa, ma che c'entra però con l'Islam e con l'immigrazione? Scusa, che metta l'immigrazione e le cose, che c'entra però la questione? Sei tu che mi hai fatto la domanda. No, però siccome anche tu hai parlato nei giorni scorsi di immigrazione, di Islam, eccetera, su questa cosa di... No, di immigrazione. Palme e banani non sono essenze arboree proprie di Milano, mi sembra, ma non occorre Salvini a riconoscerlo, qua ci sono i platani, i faggi, i pioppi, non nascono i banani a Milano, ma neanche in Italia e men che meno le palme. Ma è come, però tre anni devono rimanere, che succede in tre anni che succede? La ruspa pure per le cose? Ma no, il problema non sono le piante, il problema sono gli esseri umani che hanno deciso nel nome del business. Starbucks che peraltro fa un pessimo caffè dal mio punto di vista, il caffè italiano. Boicottiamo pure Starbucks a Milano, dici. Ma no, chi se ne frega, vado per signori di Starbucks. Parenzo è un amante di Starbucks. A una multinazionale, no, non ci vado mai, francamente. Decoro no. delle nostre città, come se uno no, a me non piace perché non mi piace il caffè americano, ma sì, però i McDonald's ci sono, cioè magari non McDonald's ci sono. No, ma mio figlio ci va a mangiare, io ce l'accompagno, ci mancherebbe. E non mangi altro, nulla, però, non mangi nulla a McDonald's. Vabbè, se vado a McDonald's mangio anche io da McDonald's. Ah, ecco, vabbè. Anche perché usano, almeno a loro merito, usano carne italiana. Quindi almeno questo. Va bene. A lavorare imprenditori italiani. Ciao Matteo, ciao, buona serata, ciao. Mi segnalano Starbucks $3 un espresso, $3, caro Parenzo, $3. Ma nessuno è obbligato ad andarci. No, per carità, assolutamente, sì, hai ragione, cioè, assolutamente. Assolutamente. Sgarbi, il maniaco sessuale è il monogamo. Però per me, uno che sta con una donna più di 3 giorni è un maniaco sessuale. È un maniaco sessuale. Cioè, il vero maniaco sessuale è il monogamo. Quindi questa mia, che è la stessa concezione che di Pasolini. E qual è il massimo diciamo, del periodo in cui si può stare insieme secondo Sgarbi a una donna. Questo è interessante, eh? Senti, questo, cioè, mi sono ritrovato molto in questa cosa qua, cioè dal punto di vista fisico, poi alla fine, cioè, quanto puoi stare insieme, cioè qual è il punto massimo in cui si può arrivare insieme ad una donna, no? Sgarbi Docet. Non mi sono mai sposato perché non ho mai dubitato che l'unica donna che poteva perdonarmi fino in fondo era mia madre. Con le altre ho avuto rapporti molto, anche non ho mai litigato alla fine, veramente, se non con Demetra Hampton, che stette con me 17 giorni, io il 17esimo mi sentivo, mi sembrava un'eternità, dico, non so, e quindi non riuscivo più neanche a avere rapporti sessuali con lei. Guardavo la televisione e dice, ma perché guardi la televisione? Dico, quelle sono delle news, te li conosco già. Questa è meravigliosa. In televisione ci sono delle news. Io già ti conosco, già conosco tutti i centimetri del tuo corpo, tutti. È una cosa molto molto cinica questa qua. Effettivamente 17 giorni sono pochi. Però se sono 17 giorni, come dire, no, di grande compenetrazione, ragazzi, beh, si conosce molto. Già te rompi il cazzo, ragazzi. Io dopo 17 giorni in cui magari scopi le prime volte, due volte, tre volte a settimana, anche una volta al giorno, eccetera, dopo 17 giorni hai fatto tutto quello che dovevi fare. Oggi, naturalmente, una volta non era così. Oggi hai fatto tutto in 17 giorni, davanti, dietro, ovunque, cioè hai scoperto. Certo, poi si può fare oltre, eccetera, però già hai bisogno di qualche cosa di, no, hai bisogno di qualche cosa di fresco, di nuovo, sapori nuovi. Pubblicità. Ciao Cruciani, sono Irene, ho 31 anni e volevo dirti che sono 4 giorni che non mi faccio una doccia e mio marito ne è contento. Siamo al top. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Pubblicità. La Zanzara. Cruciani, sono appena andato con una troia. Ha ragione Parenzo, è una merda. Non ti tira neanche. Seghe tutta la vita. Cruciani, aspetta, la mia ragazza sta incazzata, ti deve dire una cosa. Dai. Hai rotto le palle che devi pisciare dentro il lavandino ogni giorno e ti lavi pure l'uccello lì. No, il culo. Il culo e uccello, non so come fai. Vabbè, perché è una bella altezza, un'altezza comoda. Certo. E non abbiamo il bidet, siamo a Londra, Cruciani. Dove cazzo me lo devo lavare il culo, secondo te? Certo. Amo, dingè, scorsi. Cruciani, ma lo sai che... un sedere di un musulmano, per non dire altro, un culo, te lo dico chiaramente, un culo di un musulmano è pulito dalla tua bocca, di quell'ebreo che è vicino a te, 99,9%. Un culo di musulmano più pulito dalla tua bocca di 99,9. Cruciale. Sul comodino di mio papà ho trovato Mein Kampf. David, che cosa sta succedendo, David? Noi, maggioranza silenziosa, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo insorgere, guidaci tu. Caro Davide, devo dirti una cosa. Ho incontrato ieri in una cena in un posto che non posso dirti, a Milano, che non posso dire pubblicamente perché la persona magari non vuole, il professor Galimberti, mitico professor Galimberti, grande ascoltatore della Zanzara, caro Parenzo. Ma disgustato, tu non... sarà stato disgustato, ma tu sei impazzito. Professor Galimberti mi ha abbracciato fortissimo. Parte... filosofo, grande filosofo. Ma stai scherzando, mi ha abbracciato. Ah, ma io godo come un pazzo. Ma tu non hai idea, ma l'ha detto davanti a tutti. Tu, Parenzo, il linguaggio che c'è, le cose che vengono fuori dalle persone, tu hai i soliti pregiudizi. Il professor Galimberti mi ha abbracciato fortissimo. Questa lingua, questa lingua che viene fuori, questo linguaggio nuovo, devi scrivere qualcosa, devi scrivere qualcosa, assolutamente scrivete qualcosa. Questo linguaggio incredibile che viene fuori da questa trasmissione è una cosa pazzesca. Ma era lo stesso Galimberti, era uguale, un po' bassino, giusto? Io non l'avevo mai incontrato, De Visu, diciamo, un po' basso. Professor Galimberti, sì, Umberto Galimberti, dai, su ragazzi, è lui, mica ho le traveggole, che mi hai preso per incoglionito, che c'ho l'Alzheimer, con tutto rispetto. Ma magari era un altro. Per chi c'ha l'Alzheimer. Emilia Grosseto, vai Emilia. Emilia Grosseto, sì. Sì, Emilia, vicino Follonica, Io sono piuttosto infastidita perché Vabbè, sono abituata alla zanzara, vi ascolto spesso. Allora... Devo dire che questa volta non sono assolutamente non discordo con Parenzo. Parenzo... vabbè, ma mica è un delitto, eh. Cioè, non è, no, non è un reato essere d'accordo con Parenzo. Reato, no. Non mi piacciono, poi non mi piace quando è in televisione, si guarda sempre in telecamera. Vabbè, certo, Parenzo, che non è che in televisione dove, guarda per terra, no? Capito? È inqualificabile quello che hanno fatto quei due della Hilda, è veramente inqualificabile. È una cosa vergognosa. Ma lei ha tutto il diritto di dirlo, per carità, ma assolutamente. E quindi lei pensa che sia vergognoso? È indifendibile. Se lei vuole stare dalla parte delle ladre, va bene, stia dalla parte delle ladre. No, non è questione. Ci sono i carabinieri, ci sono le forze dell'ordine. Sì, amica mia, però quando si interviene non va bene. Quando uno interviene invece va male. Stato di diritto. Che bisognava fare? Prego, accomodatevi fuori. Prego, rubate. Prego, andate a prendere la roba. Prego, accomodatevi. Accomodatevi, non possiamo mettere le persone, due dipendenti della Hilda che diventano Lidl, che Ilva, quella è un'altra, Lidl. Ma quali carnefici? Emilia, ma non esageriamo, carnefici, hanno avuto un po' di cattivo gusto. Non va bene, d'accordo. Allora condanniamoli, mettiamoli in croce, vai, mettiamoli in croce. Ma se ti sarebbe piaciuto essere messo. Ma io non ci vado a rubare alla Lidl, non ci vado. Ma anche se ti avessero visto fare vergognati di fare questi paragoni, vergognati. Io mi devo vergognare. Sì, assolutamente, di fare questi paragoni. Io non vado a rubare nulla, Emilia, non vado a rubare. Tu non vai a rubare, a te non può succedere. Io vado a rubare. E appunto. Mi dispiace, ma non vorrei nemmeno un cane imprigionato per forza. Perché questi chi sono? I giustizieri di che? Di che cosa? Ma di che cosa parliamo? Ma si stiamo scherzando? Ma non ho capito una cosa. Parenzo, scusami, ma può anche avere ragione Parenzo. Parenzo. Peraltro tu oggi, siccome Parenzo ciao, si sente... Aspetta Emilia, ferma, che stai a fare? Te ne vai, sei matta? Se ne va questa, che credo. Vedi che sono tutti così, poi ti saluto, ciao, tu, Emilia da Grosseto, vabbè, dai. Allora ragazzi, cambiamo un po' passo, poi ritorniamo, Alberto da Macerata, Vincenzo da Bari, Valerio da Roma, che è una vita che vuole intervenire, anzi lo faccio intervenire perché è una vita che voleva intervenire, Valerio, sì, Valerio, eccolo. Vai, mazza, dimmi. Ce l'abbiamo fatta. Sì, scusami, Valerio, dimmi. No, non ti preoccupare, sono un collega. Sì, collega di che? Giornalista. Collega vostro, sì. No, che lavoro in televisione, no, non... Vabbè, non te lo qua, vai. Ok. No, allora, solidarietà a Parenzo, perché il ruolo suo è difficilissimo, eh. Tieni duro, Parenzo. Sì, ma là combatte come sta a Parigi in buca di due, scusa. Ti pare che sta a soffrire, Parenzo? Sta a Parigi, no, albergo 5 stelle, 6 stelle, 7 forse. Secondo me 7 stelle 12. con spa, diciamola tutta. Spa. Anzi, andiamo a consultare subito l'albergo, dato abbiamo il numero e tutto. Vediamo i services dell'albergo. Champs-Élysées, services dell'albergo subito. Non l'ho detto all'inizio. Non dire il nome magari. No, il nome non lo dico, però andiamo a vedere, diciamo, quali sono i ma giusto che sia così, ognuno spende i soldi come vuole. Quali sono, come dire, le facilities di questo albergo a Parigi? Subito, vai. Valerio, dimmi. No, dicevo, faglielo dare qualche dato ogni tanto da giornalista, qualche numero così, poraccio. Numero di che? Non tanto... c'è niente da numeri, se vuoi dai numeri, già diamo i numeri noi. Già diamo i no, numeri noi. Lui, che ogni tanto dai, ci provo ogni tanto anche sulla questione. Ma che lui dicevi. È perfetto, non ti preoccupare, Valerio, vai, dimmi cosa ne pensi. Lo so. No, io ti volevo dire di Adinolfi, però mi sono scordato perché è un'ora Adinolfi e mezza... che ha criticato la Raggi sulla cosa, ha criticato la Raggi perché che non ha il fisico adatto a fare, forse non gli regge il fisico a far sindaco di Roma. Esatto, gliela potrebbe rigirare subito, no, volendo la Raggi. Beh, dici, cioè, anche tu, anche Adinolfi che è stato pure candidato, credo, se non sbaglio. Ce l'ha il fisico lui, secondo me, io stavo al liceo con Adinolfi, era secco, sul serio, molto secco. Vabbè, ragazzi, però adesso non è che possiamo metterci a... Tu dici, non può criticare lui, proprio lui non può criticare la Raggi. No, nel senso non gli conviene perché gliela possono rigirare subito pure non c'è su dubbio, di lui, non capito? C'è dubbio. Vale, ti abbraccio, ciao. Allora, la questione dei gay e delle saune gay, Parenzo, credo che a questo punto occorra sentire il parere della signora De Mari, la nostra amica. De Mari, direi che è necessario, endoscopista, chirurgo, come sapete, psicoterapeuta, quella che è fissata con l'ano come il male più terribile dei gay, è perché sostanzialmente si inchiappettano. Questo dice, in sostanza, no? Con tutti i guai che ne conseguono. Personaggio che abbiamo in qualche modo scoperto, curato, titillato più volte. Io la chiamerei proprio su questo argomento qua. Voce squillante, mi raccomando, David, eh? Voce squillante, attacca, vai all'attacco. Pronto? Carissima dottoressa De Mari, buonasera, sono Cruciani. Ah, lietissima, come le vanno le cose? Beh, combattiamo come sempre. Insomma. Volevo sapere la sua augusta opinione sulla questione dei circoli gay finanziati dallo Stato. Che è quello che sto dicendo, io ho cominciato a fare tutto il caos che sto facendo proprio perché il mio scopo è abolire i finanziamenti ai circoli gay. Sì. Tutti. Ecco. Perché proprio, perché a tutti i circoli gay? È molto semplice. Perché uno dei circoli gay più noti è il circolo Mario Mieli di Roma. Sì. Il secondo circolo gay molto noto è il Cassero di Bologna. Sì. Adesso purtroppo non c'è più perché l'hanno tolto di volata, ma io conservo, perché avevo fatto copia e incolla, il loro www.ilcasserosalute.it. Cioè? Con le cose descritte, guardi, sono un po' imbarazzata perché sono in coda per prendere un aereo, infatti ci sono tutti gli altri che mi stanno guardando. No, bene, bene. Comunque, questa abitudine di urinarsi addosso l'uno con l'altro, tirarsi addosso le feci, che tra l'altro non ho capito cosa c'entra la libertà sessuale. Però scusi, non è che proprio... Perché non frega lei se uno si fa la pipì addosso, però non ho capito. No, e la fa un altro, va benissimo, perché se lo faccia a spese sue. Il caso questo non c'è dubbio. Dallo Stato. No, ma lei è sicura che nelle dentro gli opuscoli di questi club c'era urinarsi addosso e tirarsi le feci addosso? Sì, guardi, l'opuscolo abbiamo anche in mano il cartaceo. Si chiama pissing. Non si chiama urinarsi addosso, ma lei come parla male? No, pissing, guardi, io conosco benissimo la pratica del pissing, signora. Torniamo al Mario Mieli. Sì. Il Mario Mieli è intitolato a Mario Mieli, tizio che inneggiava nel suo libro Elementi di critica omosessuale a pedofilia. Noi checche rivoluzionarie insegneremo ai vostri bambini, libereremo il loro eros. Voi checche rivoluzionarie state lontano dai nostri bambini. Sì. Poi parlava della meraviglia della necrofilia. Voi sapete tutto sulla necrofilia. Silenzio, buoni. La necrofilia ha tre fondamentali pilastri. Il primo si rivolge a materiale imbalsamato. Direi che questo non è molto cool, insomma, è considerato un po' parte fatta. Ma non è che tutti i club gay praticano queste cose qua. Poi non è che lei sta avvicinando la parola gay alla parola pedofilia, cioè tutti i gay sono pedofili, non ho capito. Signori cari, tutti gli LGBT hanno accettato il nome Mario Mieli del circolo Mario. E allora? Inoltre il mio governo ha dato a questo circolo il denaro, quindi la cultura gay è quella. No, ma capito, la cultura gay è legata alla pedofilia, cioè i gay sono più predisposti a essere pedofili rispetto agli etero? Dunque, facciamo un po' di storia. Il movimento LGBT negli anni 70, signori, c'è su Wikipedia, non sto inventando. No, ma d'accordo, ma adesso lei dice... Silenzio, mi fai rispondere? Sì, dimmi. No, mi hai fatto una domanda. Dimmi, rispondimi, dai. Allora, buono. Si chiamava LGBT. Sì? No, si chiamava LGBT. Topino. PNZ. Che sarebbe pedofilo, necrofilo e zoofilo. Lo zoofilo non sono quelli che mettono la foto del gatto su Facebook. Sì, diciamo quelli che vanno con gli animali, sì. Non solo, ma adesso sta di nuovo risorgendo in quella del movimento LGBT della California, mi pare anche dell'Oregon, mi ricordo, il fatto che il vero amore se ne infischia del genere, se ne infischia anche dell'età. Sì. E il nuovo slogan è: l'antipedofilia è grave come l'uomo. Cioè, lei mi sta dicendo, la necrofilia si rivolge anche a materiale fresco o meno fresco, ma biologico, cioè al di là di qualsiasi... Ma lei mi sta immaginando un mondo, lei mi sta dipingendo un mondo, scusi se la interrompo perché adesso bisogna che la interrompo, lei mi sta dipingendo un mondo omosessuale come un mondo agghiacciante, sporco, schifoso, lurido. Ma invece è tutto falso, basta, ci vada a riguardare lo speciale delle Iene, lì c'era un uomo incatenato a cui tutti si divertivano a mettere il pugno nella cavità anale per poi aprirlo. E vabbè, che ma... gente normale, ma è straordinariamente normale. Allora, è quel mondo lì. Lei si è ostinato a pensare che sia una roba diversa. Ma vabbè, ma quelle sono pratiche. Se... pensare che siano povere vittime. Torniamo alla necrofilia. Un altro caposaldo della necrofilia, invece, consiste nel mangiarsi l'amato. Per esempio. Ma che c'entrano i gay col mangiarsi l'amato? Ma dove le lette ste robe? No, sì, ma è Mario Mieli che parla della necrofilia. Ma non è che tutti i gay ma sono necrofili. Ma non c'è più Mario Mieli, è morto Mario Mieli, su, dai. Sì, ma il circolo è intitolato a lui. Glielo spiego con chiarezza. Mi spieghi. Già che lei mi spieghi. Se lei intitola un circolo a Garibaldi, poi non può dire a me l'impresa dei mille fa schifo. Riesce a capirlo? Vuole, sì, d'accordo, ma lei, secondo lei, i gay, mi dica però, per far capire alle persone, perché secondo lei i gay sono tutti quasi pedofili? O ma sono non tutti si può pedofili? Dire sta roba, ma che dite? O tendono alla pedofilia? Perché la maggioranza di loro non si è ribellata al fatto che il loro fondamentale circolo, quello che diceva Quattrini, dalla signora Cirinnà in company, signori, se loro si chiamano Mario, c'è la Cirinnà anche inneggia la pedofilia. Mario Mieli rappresenta, cioè, lei sta dicendo che l'onorevole Cirinnà inneggia la pedofilia, ma lei, l'onorevole è da, Cirinnà è da rinchiudere, è lei il circolo Mario Mieli di Roma, e quindi per la proprietà il transitiva l'onorevole Cirinnà, la, ma lei è da rinchiudere, signora mia, cioè lei per la proprietà transitiva dice che quindi siccome l'onorevole Cirinnà inneggia il Mario Mieli e Mario Mieli, lei dice, era pedofilo, quindi anche la Cirinnà per la proprietà transitiva inneggia la pedofilia. Oh, siamo... l'ha capita. Non ho capito niente. Calmi, è gravissimo. Calmi, non mi posso calmare. Non poi il mio aereo sta per partire. No. Vado a Vilnius. Un'altra cosa, signora De Mari. Lascerò in eredità nel diritto del l'aborto, si parla molto di aborto. Un attimo solo. Così forse capite il pensiero. No, un attimo, l'aborto, è importantissima questa cosa qua, l'aborto. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Era mia amica a Roma e abbiamo scoperto che la troia che batteva davanti Sky, cioè aveva il telecomando del cancello di Sky, una roba incredibile. I siti porno non sono più di moda. La mattina si ascolta solo La Zanzara. Cruciani, sono chiuso in bagno ad ascoltare La Zanzara. Mia moglie non vuole. Se mi becca, non me la dà più per un mese. Amore, cosa fai? Scappo, siamo al top. Insomma, che cazzo stai a dire? Meglio la zingara che l'animale in gabbia. Cazzo, non avete capito niente. I rom in gabbia sono una nuova attrazione del Lidl per i clienti. Servono a invogliare il cliente a comprare lì. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Cruciani, pensa se nella gabbia avessero chiuso un cagnolino. E il cagnolino urla perché vuole essere liberato. Tutta l'Italia si sarebbe rivoltata. Allora ragazzi, questa è La Zanzara. Potete dire sempre quello che volete, sempre, eh? Sempre, sempre. Ci sono messaggi molto pesanti, caro Parenzo, tu che sei a Parigi, sto guardando anche l'albergo, non farò il nome, dove sei, dove c'è fitness and sauna, free wifi, vabbè quello ci sta ovunque, pure nei cessi dei supermercati. Free wifi, il minimo che c'è sia il free wifi. Outdoor patio, poi c'è multilingual staff, parking, limousine services, conciergerie. È un semplicissimo ancora, è un albergo 5 stelle. 5 stelle, fitness and sauna, dry cleaning laundry, two reception rooms, daylight, eccetera, eccetera. Services. Beh, no, insomma, appartiene vedo, al grande gruppo della. Beh, vedo pavimenti specchiati, marmi che luccicano. Ma appartiene al gruppo Leading's Hotel, cioè della catena del Leading's Hotel of the World. Vabbè, facciamo pubblicità, che hai fatto? La marchetta, che ti hanno fatto lo sconto? No. No, meno male. Lo sconto, meno male. Tutto interamente. Meno male. Faccio poche vacanze all'anno, quelle poche che faccio, bravo, il lotto bravo, è questo. Bravo. Devo stare meglio di come sto a casa. Molto bravo. Altrimenti sto a casa. Molto bravo. A casa sto bene. Molto bravo, molto bene, no, molto cosa bene. Cosa devo fare? Comunque, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Domani, se vuoi sapere, vado in visita pagando sì. Alla Fondazione Louis Vuitton. Che come tu sai, sì. Perché sei una persona colta, la fondazione Louis Vuitton è stata disegnata dall'architetto Gehry. Sì, come no, certo, il mitico architetto, ecco, Gehry. E dentro c'è un sì. Ristorante stellato. Dove hai prenotato? Stellato, hai prenotato? Dove non ho prenotato. Perché costa troppo, 200-300 euro costerà perché sicuramente. Costa parecchio, sì. E quindi vado in visita. Ma meglio che vai in un bistrò, paghi 40 euro, mangi alla grande. Che stasera cazzo vado a cena in un bistrò con dove? Anche una persona che non... dove un da è un ristorante no, al Marais, Parigi. Al Marais? Vai al Marais? Sì, lì vicino, bravo. Vicino al Marais, ragazzi, andate tutti a cercare Parenzo al Marais. Parenziani. Ho sbagliato con una persona piuttosto anche nota, che conosci bene anche tu, sì, con cui sono a cena questa sera. Parigi, oltre. Mi viene in mente qualcuno, però adesso poi lo dirò. Lo puoi dire con chi vai a cena, però forse... No. Alessandro da Forlì, che... vai, Alessandro. Magari vai. Lui non vuole che si dica alla radio. Alessandro da Forlì, vai. Buonasera, ciao a tutti. Volevo intervenire sull'unico argomento divertente della serata, che era il discorso dei 17 giorni di Sgarbi e di Cruciani. Molto probabilmente. Beh, unico argomento divertente, ragazzi. Non è che possiamo parlare sempre di figa. Non possiamo parlare sempre di figa dalla mattina alla sera. In realtà non parliamo mai. È un problema dei rom, è gravissimo, è importante. Allora che vuoi? Rilassiamoci ogni tanto. Ma hai ragione, per carità. Infatti va benissimo, va benissimo. Ecco, è che il 18esimo giorno vi mandano a cagare. È per quello che resistete 7 giorni. Guarda, amico mio, la maggior parte delle volte è esattamente il contrario. Cioè, c'è il problema di mollare dopo di essere mollati dopo 17 giorni. Perché, questo è il punto. Perché tu sei ancora uno di quegli illusi che sei convinto che sei te che trombi loro. Sì. In realtà è il contrario. Quello può essere, che c'entra? Sono loro che scelgono quando c'è, sono non tu. Sì, quindi, quello può essere, quello può essere. Nel 99% dei casi è così. Va bene, vi saluto e vi abbraccio. No, era tutto qua. Cioè, dopo 17 giorni la realtà è che ci mandano a cagare. Questo esatto. È il punto. Vabbè. Ienis, da. Provincia di Trieste. Ienis, come cazzo è? Non lo so, vai. Sì, buonasera. Come ti chiami, amico mio? Ienis. Io sono Jens. Quando apro la bocca, anche se vivo da 30 anni in Italia, si sente che sono tedesco. Tu che essere tedesco, essere tedesco. Tu essere, sì. Vedi, Parenzo, non lo utilizzo solo con l'Islam. Tu essere tedesco, Ienis. Io tu essere tedesco. Essere deutsch. Allora. Puoi chiamarmi anche Hans. Hans, comunque parei, io sono totalmente d'accordo in quella cosa con Parenzo. Sì, beh, certo. Quelle due povere rom. Cioè, povere rom, certo, ladre. Gatto nelle immondizie. Cioè, per te sono già diventati, diciamo, super ricche con Mercedes, vivono in 5 stelle. Io non ho detto questo. Diciamo, ma il problema, io vorrei magari un po' allargare. Non era l'immondizia, le parole non valgono niente per te. Cioè, tu per te, e questo è un grosso problema. Io mi ricordo. Io vivo con le parole, che cazzo quando dici? Un ministro, parlava di ministro di un orangutan. Va bene, si può dire, questo è, diciamo, è, come senti, si chiama caro in italiano? Caro Hans, il razzismo, no? Cioè, questo è in Germania, un politico di quel tipo avesse finito la sua carriera. Cioè, secondo te Salvini non potrebbe esistere in Germania? A parte che non è vero, ci sono i partiti neonazisti pure in Germania. No, ma in quel modo no, cioè sì, hai ragione, che sono anche neonazisti, allora, sono più evoluti, diciamo, nel senso che non possono così apertamente essere razzisti. Ma poi di che parliamo? Scusa, non ho capito. Ma come parliamo? Se tu parli di una persona che è un orangutan, come poi... Una persona? Come vuoi fare una conversazione con queste persone? Se io ti dico tu sei un orangutan, va bene, sei un orangutan e abbiamo finito. Sei una? Ma tu vuoi parlare con me? No, non puoi parlare più con me. Ma è così, è facile. Non ho capito orangutan, non ho capito che cos'è. Orangutan, cioè tu ricorditi, non so, di quel paragone, io so, di 5 anni fa, quando un leghista paragonava la ministra che era un orangutan, e tu vai l'orango, sì, l'orango. Ma è così, cioè questo è problema. Non si può dire, questo è chiaro, sì, è così, cosa vuoi fare? Qui è finito tutto il discorso, cioè tu mi dici, ma io sono tedesco e sono fascista e no, finito. Io non ho detto questo, figurati, assolutamente. No, chiaro, io non sono. Figurati se io dico che è razzista. Abbiamo imparato qualcosa della storia. Ma assolutamente, figurati se dico che sei razzista, e tedeschi, razzisti, e sei matto, sei. Amedeo, provincia di Cremona, vai. Va bene, ti saluto. Vai, Amedeo, dimmi. Buonasera, Amedeo. Dimmi. Io sono un camionista e volevo semplicemente dire che lo stesso trattamento che la Lidl ha riservato oggi alle signore rom, sì, lo riservano normalmente i camionisti, perché se non scaricano i camion vengono passati per ultimi della fila. Cioè, in che senso? Scusa, adesso non dire che... 10-15 euro di prenotazione. Non ho capito bene. Non ho capito niente. Non ho capito nulla. Meglio, tu sei un camionista? Ecco. Sì. Sei un camionista di che cosa? E quando vado alla Lidl a scaricare, se non, anche se arrivo primo, devo scaricarmi il camion, altrimenti passo. Vabbè, per amico ultimo, mio, però a me che cazzo me ne frega di sistema di gabbia. A me che me ne frega di come avete architettato il sistema di scaricamento delle merci alla Lidl. Scusa, ma che stai paragonando quello che è successo? Io semplicemente sto parlando del trattamento che riserva. E vabbè, saranno un po'. E che c'hanno? Che trattamento hanno? Che trattamento riservano a chi non è acquirente di cosa? Vai lì a scaricare della merce. Che succede? Ti mettono in galera? Ti rinchiudono? Ma non lo so, non mi interessa. Ma perché dovrei essere interessato al modo in cui tu scarichi la merce alla Lidl? Vabbè, io cercavo di venire incontro, se volete continuare a essere servi della gleba, fatelo pure. Ma servi della gleba di chi? Non ho capito. Che cosa fa di strano la Lidl in questo caso? Ma che fanno di strano? Di Confindustria. Ma Confindustria è una minchia. Cosa c'entra Confindustria, amico mio? Cosa c'entra Confindustria? La Lidl pensi che sia un negozio. Ma sono tedeschi, vende... sono tedeschi la signori della Lidl, sono tedeschi. Sì, non cambia niente. No, ma media, io voglio capire. Ma io semplicemente non ho capito qual è il reato che hanno commesso questi signori nei tuoi confronti. Qual è la, come dire, la cattiveria? Qual è la perversione che commettono? Non le signore, la Lidl. Sì, la Lidl, questi signori. Se non scarichi il camion, non saresti tenuto a farlo. Passi per ultimo dalla fila anche se sei arrivato. Che vuol dire se mattino, non scarichi non il camion? Non sei nelle gabbie dove ha messo la signora. Mario, non ho capito. La cabina del camion, aspettare. No, però scusami, fammi capire perché adesso veramente mi impunto. Cioè, tu arrivi là alle 6 di mattina e che cosa cazzo c'hai dentro il camion? Che c'hai? I falli di gomma? No, che c'hai? Guarda, io non mi spreco più perché secondo me no, se uno non vuol capire. Ma non ho capito, non seriamente! Ma seriamente non ho capito, Amedeo, davvero non ho capito. Dimmi. Ma questo è matto, ragazzi. Niente. Ci dice che vengono messi in fila. Arrivano di mattina presto. Avete capito voi qualcosa? No, nulla. Nulla. Giuseppe Pistoia, vai, Giuseppe. Pronto? Dimmi, Giuseppe. Dimmi, Giuseppe. Io difendo, io e un altro collega difenderemo, se lo vogliono, quei ragazzi che hanno fatto l'azione di cui state parlando da 2 giorni, gratis. No, credo, sei un avvocato tu? Sì. Cioè, di Pistoia, vuoi difendere i dipendenti della Lidl gratis? Sì, sì, gratis, io e un altro collega. Ma perché? Siamo 2 penalisti, sì, li difendiamo gratis. Perché sei incazzato, sono incazzato come una bestia. Se gli fanno anche la causa di lavoro, non ci sono i presupposti per essere licenziati. Sei sicuro? Questi quattro soloni da 4 soldi della CGL, queste altre associazioni che si sono messi tutti contro questi ragazzi che hanno fatto una bravata, non di più, perché non le hanno rinchiuse con dei lucchetti o con delle catene, hanno impedito loro di uscire. Chi è che sta ridendo? Parenzo sta ridendo. Chi è che sta ridendo? Sto scemi in merda. Scemo di merda, stai zitto. Sì, l'avvocato, sì. Asino, no, stai zitto. Ma non sa che questa è... Ma non sa che cosa questa è? Cosa? Aspetta, fammi sentire che cos'è. Non è un'offesa questa? Fammi sentire. Vabbè, non dire che cazzate, cosa? Dai, Davide, che offesa? Dai. Lei ha detto pezzo di merda, è un'offesa, no? No, scemo in merda, ha detto. Scemo ti ho detto. Se tu non sai le leggi, lei fa l'avvocato. Giornalaio, se tu non sai le leggi, stai zitto, taci. Hai capito? Non ci sono i presupposti per il licenziamento. Non ci sono i presupposti perché lei Ciuchino, abbia un cervello. Ciuchino. Ah, vai al museo di Ostia domani, invece di andare da Louis Vuitton. Adesso avvocatuccolo, torni indietro adesso, eh? Avvocatuccolo, guarda, ti giuro, devi ringraziare il Dio che sei, che non ti ho davanti. Adesso perché? Che devi fare, indietro. Giuseppe? Non ho capito, adesso non ti ho davanti. Torni indietro. Che faresti se ci avessi davanti, dai? Cioè, che vuol dire? Oh, Giuseppe! Sono qua. Avvocatuccolo? Ho capito, ma allora... Avvocatuccolo! Diamo anche il cognome di questo, così la gente fa la fila per andare da questo personaggetto qua. Avvocatuccolo, vai, dai il cognome anche. Non si dicono i cognomi qua, comunque se lo vuoi dire. Come Giuseppe, no? Dillo. Sei un avvocato, no, avvocatuccolo. Beh, sì, se ti sei offerto per difendere gratis i dipendenti della Lidl. Che importante studio legale ha questo avvocato? Puoi dirlo anche, puoi dire, siccome ti sei offerto. No, non dico, non voglio fare pubblicità, io sto dicendo che non esistono. Che non esistono i presupposti perché queste due persone siano licenziate. Guarda, se questo qua è un avvocato, io sono il capo del stato dell'Liechtenstein, se questo è un avvocato. Oh, Giuseppe, però che stai essere che sia capo di stato dell'Liechtenstein, Che fai, stai zitto, non ho capito, Giuseppe. Cosa gli devo dire? Cosa devo dire a questo insetto, ecco. Vabbè, dai, su, ragazzi. Che cosa, dai. Avvocato. È un provocatore. Avvocato. È un provocatore. Non posso cadere nella trappola di questo provocatore. Va bene, ragazzi. Pietro Treviso, vai, il Pietro. Considerano il principe del foro, non dico quale foro, però. Questo non è male. Pietro Treviso, è conosciuto vai. Come il principe del foro. Toro, ma non sai quale. Beh, io ho detto Pietro, solo Pietro Treviso, vai Pietro. Ciao Cruciani, a proposito di Foro, volevo dire che noi siamo una macchina di froci. Beh, ragazzi, viva i froci! Quanti siete in macchina? Quanti volevamo invitare la signora a fare nel nostro girone infernale a fare un festino con noi. La signora che ha parlato prima. Chi è la signora che ha parlato prima? Ah, la De Mari, la De Mari. Club omosessuale. Amici miei gay, quanti siete in macchina, frocioni? Siamo tre. Tre. Sei frocia. Viva il frocia. Frocione mie, frocione mie. Dillo che si può dire frocio, dillo a tutti che si... Assolutamente. Bella amica mia, ma dove andate di bello a farmi inchiappettare stasera? A Milano. Milano, stasera. Beh, a Milano. Che succede stasera? Dark room, qualsiasi cosa. Dark room, picking, zenzero nelle cavità anali, le pratiche più strane, insomma. Da, dai, che lì ci trovi pure l'avvocato di prima. Probabilmente sì. Avrai il tuo trattamento. Sicuro, guarda. Senti, amico mio, ma chi è tra di voi quello più, l'avvocato, diciamo, quello, siete tutti attive e passive tutte e due? Siete tutte e tre? Siamo in tre. Non ce lo siamo mai confessati. Potremmo iniziare l'ipotesi stasera di combinarci insieme. Ragazzi, questo è il mondo vero, è il mondo vero, gente libera che fa il cazzo che vuole. Che fa grazie. Quello che vuole, però senza soldi pubblici, amico mio, senza soldi pubblici. Senza soldi pubblici. Solo soldi nostri. Comunque io volevo dire una cosa. Dimmi. Passero due settimane fa e io speravo di trovare, capito, un sacco di omosessuali invece pronti ad accogliermi. Ma ero solo da solo, ero l'unico omosessuale, tutti eterosessuali, nei bagni, ovunque. Non ci sono più i circoli di una volta. Qual è quel il posto più perverso, più bello che pensate a Milano, per esempio? Dov'è quello proprio più porco? Ma sai che non ci sono più grandi locali, grandi dark room, non c'è proprio più niente. E questi di Roma, che hanno fatto vedere nel servizio delle Iene? Beh sì, qualcosa sì, però diciamo che è poco appetibile specialmente per i ragazzi più giovani, quindi le nuove generazioni sono un po' staccate da quell'idea di omosessualità, però cioè, non c'è nulla di male. No? Vabbè ragazzi, dobbiamo sentirci la settimana prossima che devo chiudere, mi raccomando, richiamateci. Assolutamente. Oh. Pietro, viva i froci, ditelo, viva i froci! Viva i froci, viva! Viva i froci, viva i froci! La scivola nerchie. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Quel nano malefico. Radio 24. Libera la voglia di fare.